esplori. Stasera sarà molto non difficile. Non abbiamo bambini da rapire. Ma come mai posso chiedere? Il look è molto bello, vorrei poter avere anch'io un fisico e permettermi di uscire con una tuta del genere a testa alta, ma non ce l'ho, non ho le palle che hai tu. Ma come mai questa scelta? Pensavo mi dicessi perché... Che io... tema era? Ah, è vero, ma c'è anche lei con la tuta. Solo che la sua, più la sua più sgargiante si nota di più. Nessun altro ha partecipato a feste tema improbabile? Dai look non direi. Però... Beh, parliamo un applauso io. A chi? Da chi apprezza lo schifo. In quanti qui apprezzano lo schifo? Ed è per questo che stasera siete qui. Questo è il nostro pubblico. Due settimane fa, infatti, c'era un sacco di gente. Che adesso non sta andando male, dai, non ti puoi lamentare. Infatti, stasera ci sono solo gli schifosi. Cioè, questo è il nostro pubblico. Tu stai dando degli schifosi ai signori, praticamente. Sì, ma loro sono fieri. Ah, beh, vero, vero. Hanno lavorato una vita per farsi. Esatto, sono gli schifosi di una volta. E come va? Chi è che è la prima sera che viene? No, a parte gli scherzi. No, signor, lei non è la prima sera che viene. Ah, ok, sì, no, certo, certo. Uno... Due, no, beh dai, dai, va bene, va bene. Ah, lui si esibisce, te l'ho detto? Sì, lui mi ha detto, se c'è spazio mi esibisco. Sì, c'è spazio. Va bene, c'è sempre spazio. Adesso andiamo fuori, via Corso Sempione. Ehi, tu, vuoi venire dentro? Ma per me sì. Lo ma no, vabbè, va bene, ma mi è simpatico. Uno spazio libero. Mi è simpatico, ha una bella faccia. A chi? Lui, o fa un pezzo bellissimo, o ha la faccia di quello che prende il mitra e ne ammazza 14. Mi piacerebbe tantissimo. Anche a me, però spero non stasera, perché 14 qua vuol dire metà soldi a fine serata. Sì, no, probabilmente no, però ci hanno pagato, quelli che hanno pagato hanno pagato, quindi buonanotte. Tanto di cappello non prendiamo mai niente, a parte i due signori che sono di un'altra epoca. Va bene, allora, amico mio, spieghiamo come funziona la serata o andiamo dritti al sodo? Perché finora abbiamo detto delle cose che non stanno né in cielo né in terra. Ma tanto la maggior parte sono venuti. Sì, va bene, una serata di merda dove imperversa lo schifo, tutta gente che non si può esibire da nessun'altra parte perché non la vogliono. Se qualcuno voleva divertirsi andava al Gepensimi. Andava al Gepensimi, va al Joy, cioè, se vuoi divertirti non vieni qua o stai a casa tua, perché qui noi facciamo un altro mestiere, qui portiamo la stand-up a un livello superiore. Qui è merda, cioè proprio, a noi interessa quello. A noi ci interessa la delinquenza. Tutte esatto, persone l'associazione che delinquere hanno precedenti penali, tranne uno che è la quota bella persona. Stasera chi è la quota bella persona? Stasera? Ah, lui, sì, ho capito. Sì, beh, è già stato la quota bella. Sì, no, sì, però lui potrebbe essere passato anche al lato oscuro, onestamente. Già? Vabbè, se è venuto la seconda volta, vuol dire che no, forse... No, l'altro... Fabio, sembra che stiamo giocando a briscola. Fammi un cenno. Va bene. Senti così. Come sta il pubblico, sta andando giù. Ma il nostro obiettivo, obiettivo è questo. La settimana scorsa io ti ricordo che se non ci fossimo stati io e te due settimane fa. Ho capito, devi puntualizzare tutte le volte. Due settimane fa, se non ci fossimo stati io e te, cazzo, arriva da Dio la gente. È vero. È vero. Poi se arrivamo io e te. Che poi lo abbiamo fatto 40 minuti belli, proprio bello. E poi abbiamo iniziato a affossare la serata, continuando a dire, ah, che peccato, stiamo affossando la serata. No, e più lo ripetevamo, più la serata andava giù. Non sono stati 40 minuti belli, sono stati 40 minuti in cui il pubblico resisteva. Cioè, arrivava un comico, faceva bene, arrivavamo noi, affossavamo, ma il pubblico era resistente, quindi si riprendeva subito. Dopo 40 minuti è finita la resistenza e quindi si è affossata tutta la serata. Forse con questa introduzione abbiamo gettato le basi per affossare definitivamente la serata ancora prima di farla partire. Andiamo a casa? Andiamo a casa, chiamiamo il primo e vediamo come se la cava. Vabbè, allora... È un'apertura, gli abbiamo reso la vita difficilissima. È un sacco di merda. No, questo lo dici tu, io non mi associo. Io finché c'è da dire che è un cretino, un coglione. Vabbè, l'ho portato ma sacco io. Di... Ah, ok, allora è un sacco di merda e si chiama... Max! Non ha un cognome, chi è? Grazie. Che entusiasmo, Max. Ma che belle parole, grazie. Sento veramente contentissimo. Buonasera a tutti. Grazie. Molto, molto gentili, grazie. Io mi chiamo Max Samaritani e niente, sono molto emozionato di essere qui. In realtà sono felice perché, beh, come si dice, no? La felicità, famosa frase, no? La felicità è vera solo se è condivisa. Quella frase inglese, no? Happiness is real. All you can eat, no? È bellissima quella frase veramente che... E niente, vabbè, scherzo un attimo su un po' sul cibo perché è un po' un problema No, cioè a me mi piace mangiare in realtà, però ho un po' questo problema con i vestiti, faccio un po' fatica a trovare dei vestiti della mia taglia, è un casino, soprattutto con le camicie, però vabbè, pensate, l'ultima volta io quando sono andato per prendere i miei vestiti, no, sono andato al centro commerciale e niente, sono arrivato, ho preso l'ascensore perché era l'unica cosa che mi andava, cazzo. Però poi ho detto, ma è proprio il mio, perché c'era una targhetta con scritto max 150 kg, ho detto, cazzo, ma allora è il mio! Ho detto, ma allora sono proprio contento, no? Quindi ho detto, vabbè. Sulle camicie invece è un po' più un problema, perché le camicie, cioè di solito quando vai nella parte delle taglie forti, no? Le camicie sono tutte piegate. Io dico, cazzo, che bella idea che... Cioè già per prendermi le misure a occhio ci vuole uno delle belle arti, se in più devo aprire le camicie, di solito mi faccio aiutare da mia moglie, noi andiamo insieme così ci mettiamo lì, apriamo la camicia, prendo la manica da una parte, dico amore prendi la manica, ecco è arrivata e niente, che dico ma questo, ma cazzo, ma con le camicie, ma fatele della quercia come le tende, fum, si aprono. Uno le può provare, no? Direttamente, male che vada ci dormi dentro, cioè non è che è un problema, comunque vabbè. Io volevo anche raccontarvi un po' di questa storia, ho parlato di mia moglie, no? Un po' di questa storia d'amore, un aneddoto di quando eravamo fidanzati, io e la mia fidanzata, no? 2014, immaginate, no? Io e la mia fidanzata siamo a Berlino, è San Valentino, sono le 22:30, lei ha le farfalle nello stomaco... Io nello stomaco c'ho un buco tanto, ma è San Valentino, lei guarda me, io guardo se c'ho un McDonald's, cazzo non ne trovo, ma è San Valentino, un tizio con la chitarra da lontano canta Dreams are my reality, dico ecco, altro che il tempo delle mele, cazzo, al massimo il tempo di un hamburger, questo, però è San Valentino, poi vedo un cavallo. Dico, vabbè, se non c'è il Mac, una bistecca, ma è San Valentino e quel cavallo è attaccato a una carrozza. Idea. Giro in carrozza con l'amata. Cazzo, genio. 150 kg di romanticismo puro, minchia. Un Lindor gigante. Mi giro, la guardo e le dico, amore, aspettami qui. E vado, corro verso la carrozza con irresistibile scioglievolezza. Nella mia testa io sono come un eroe greco, no? Petto nudo, coi capelli sciolti, pronto ad immolarsi per la patria, in realtà sono un panda sulla luna. Comunque vado, corro dal cocchiere, arrivo, lo guardo e gli dico... E poi riprendo fiato e gli spiego la questione, no? Excuse me, and me and my with around... lot of fiato we were checking for a McDonald's but niente, il cocchiere capisce la questione, allora con la testa mi facendo di salire, con la mano di pagare 150 euro, io niente, con la mano pago e con la testa faccio cenno in merito alla cifra, cazzo, complimenti, ma è San Valentino e si parte, amore questo è per noi, saliamo sulla carrozza e partiamo per Berlino. A un certo punto il cocchiere gira in una via, siamo solo noi, è una via piccolina, senza nessun altro, mia moglie mi abbraccia, mia fidanzata, scusate, niente, per quanto riesce, arriva fino a qua, niente, mi abbraccia, la mia fidanzata mi dice, amore, ma ci pensi, eh? Berlino di notte soli, io e te, eh già, Berlino di notte soli, io e lei, di notte, a Berlino, da soli, io, lei e il cocchiere, sconosciuto, Berlino di notte, soli, ansia, il cocchiere è un serial killer, sicuro, cazzo, sicuro, minchia, ma che sfiga, questo è il tipico che si finge cocchiere per rapire la gente e farla fuori, cazzo, siamo morti, ma che idea di merda che ho avuto, ma non potevamo restare in piazza a cercare un McDonald's, niente, io devo stare tranquillo, non devo far agitare la mia fidanzata, quindi respiro, niente, Max, stai tranquillo, a un certo punto mi giro, la guardo e le dico, amore, scusa, e non è che conosceresti il numero della polizia di Berlino? Così? No, perché? No, niente, niente, ma sei agitato, è successo qualcosa? No, io, ma che cazzo dici? Stavo pensando a noi, sì, alla nostra foto sui giornali domani. Hans lo squartatore ha colpito ancora, cazzo. Niente, lei mi guarda e mi dice: amore, ma che bella idea che hai avuto, mi hai rubato il cuore. Eh già, pensa che adesso giriamo l'angolo e Hans ci fotte pure i reni, pensa che bella fine che facciamo. Lei non si rende conto del pericolo che stiamo correndo. Io sono in ansia, pensate, sono in ansia più io del cavallo quando mi ha visto salire sulla carrozza, per dare idea. Comunque, niente, a un certo punto le devo dire la verità. Amore, ascoltami bene, siamo in pericolo. Il cocchiere, un serial killer. Siamo morti! Ma che cazzo dici? No, amore, ma guarda che c'è un urlante. Guarda che si vede dalla faccia questo, siamo morti! Ma perché è girato? Mica effettivamente era girato. No, ma è girato perché non vuole farsi riconoscere, bastardo. No, è girato perché sta guidando, pirla. Niente. Sì, ma guarda come frusta il cavallo, guarda, lo vedi? Ma lo vedi? Sì, lo vedo, è dolcissimo. Certo, perché è sadico, quello gode a frustare. Sì, guarda che adesso è l'equino, ma dopo siamo io e te. Sì, certo, e dopo che ti ha rapito cosa fa? Ti vende al chilo? Mi vende al chilo. Minchia, ha ragione. Tra l'altro sto stronzo con me fa i miliardi pure. Niente, amore, comunque tu stai tranquilla, non ti preoccupare, sei nelle mie mani. A quel punto la carrozza si ferma, il cocchiere si gira, ci guarda, siamo morti. Wir sind angekommen. Minchia, allora io mi alzo, lo guardo dritto negli occhi e gli dico: prenda lei. Prenda lei. Guarda che ha detto che siamo arrivati. Ah, ha detto. Effettivamente noi eravamo arrivati, il cocchiere aveva parcheggiato la carrozza, tra l'altro di fianco a un McDonald's, cazzo. Però niente, io mi alzo e dico: amore, visto che bella serata, no? San Valentino, ti amo. Com'è che si dice? Ich liebe, vai a fanculo, vai, scendi per favore, scendi. E niente, comunque adesso, come vi ho già detto, lei è mia moglie, cioè è andata avanti bene la storia, perché vabbè, lo so, l'ho conquistata col coraggio. Grazie! Un grande applauso a Max, di cui ignoriamo il cognome, ma è stato un eroe. Max! Max, sei un grande, un eroe. Non ti meriti gli insulti che Valerio Erò ti ha dato prima. Ma io quando mai ti ho insultato? Solo prima. Esatto. Vabbè, ma sacco di merda in amicizia. Possiamo dare tutti del sacco di merda a Max in amicizia? No, vedi che il pubblico non vuole, è reticente, giustamente. Beh, applaude, quindi acconsente. No, applaude, lo fa perché c'è tristezza in questo momento. Tristezza. Senti, guarda la gente, c'è chi si bacia, chi parla, c'è chi sta facendo i cazzi loro. Pensa a te come stiamo catturando il pubblico. Vabbè, noi volevamo fare una serata di merda. Ho capito, ma non è che possiamo farla naufragare al minuto 20. Te dici che stiamo esagerando. Bisogna un minimo provare a arrivare a così e poi vai giù. Abbiamo delle cose pronte? No, le abbiamo, ma le abbiamo già fatte. Una ha funzionato, per dire, e l'altra era una merda, quindi non le rifarei. Vabbè, quindi stasera è andata così. No, no, non voglio fossarla, dico solo. Sai, cerca di far qualcosa, fai ridere. Che faccio le facce. Fai le facce, scorreggia, fai qualcosa. Ma sai che sai che abbiamo un imitatore stasera? Abbiamo un imitatore stasera. Al quinto posto. No, no, non voglio chiamarlo imitatore. Mi chiedevo se per caso tu sapessi fare. Allora io non nasco imitatore, nasco scorreggione. Ok. Per fare le scorregge ci vuole un allenamento e una dieta specifica che io in questo momento non sto seguendo. Bisogna mangiare tanto latte e cereali al mattino, al pomeriggio, alla sera e poi arrivare a scorreggiare. Ora io, non avendo fatto questo allenamento qui, questa dieta qui, non posso scorreggiare in questo momento. Senti, bastardo! Chi è che ha fatto tu? Ah, sei pelato. Poi. No, vabbè, tra l'altro il ragazzo qua che lui chiama pelato, è un amico, quindi c'era anche l'altra volta, e anche l'altra volta purtroppo sì, si vabbè, ma è preso del pelato. È amico un po' di tutti, è un po' una mignotta, cioè... Ascolta, vedi, la gente ride quando insulti i pelati. prova a prenderne un altro. C'è un altro pelato. I pelati sono simpatici. Cioè, i pelati ispirano una certa voglia di sorridere. Cioè, basta dire che uno è pelato, perché uno basta guardare un pelato. Quanti pelati ti hanno guardato? Cosa vuol dire? Ma cosa vuol dire? Ma cosa vuol dire quanti pelati ti hanno guardato? Ma non c'è neanche un principio di senso. Ma scusa, un pelato non può guardare un altro sì, pelato. Ma sì, ma non... Cioè, allora i pelati adesso guardano solo quelli con i capelli guardano quelli... Scusa, se non me l'aspettavo questa. Puoi fare la tua domanda celebre sui pelati o sulle donne che magari hanno avuto avventure con c'è un altro pelato là! Ah, che si nasconde, infame, codardo! Lui prima fila viene! Maledetto! Ti vogliamo fra due giovedì qua davanti! Rasati la testa che li vedo i peli che crescono! Merda! Ma come ti... Voi, allora, quanti qui sanno quanto è bello accarezzare la testa di un pelato che si è appena raso la testa? Guarda, chiediamo la signorina che ha voluto alzare la mano e adesso si cuccherà delle domande, perché io non l'avrei fatto. Prego, maestro, chieda alla signorina quali sono state le sue esperienze con l'accarezzamento di teste pelate. Signorina, mi parli un po' di quando accarezza i pelati. Com'è la sensazione? Perché? E come accarezzare? Aspetta, accetti cosa è successo? Lo scroto, ho sentito, no, la consistenza... Di la verità! Signora, però anche lei non ci aiuta. Però qua c'è la saggezza! Posso? Lei, signora, prima di conoscere quel gran bell'uomo di suo marito che ha i capelli, in gioventù, un pelato... Mai? Allora non è che può parlare se non sa. Faccia parlare la ragazza comunque, dietro. Comunque tutto questo nostro parlare di pelati è perché... Ha ragione, io do sempre ragione a lei. Però qua abbiamo due pelati, può anche lasciar stare l'immaginazione. Guardi, un regalo per lei, visto che non l'ha mai avuto. Vuole toccare stasera una delle due teste? Lui e mi poi... sembra più rasato, tocchi lui. E la chiudiamo qua? Madonna. E poi lei mette un bel... E ci mette un bel 20, ci mette un bel 20 euro in busta? Guardala, una serata affossata, pelati, boom! Ma i pelati sono il segreto del mondo! Boom, cazzo! Presentiamo il prossimo così, io e te il nostro l'abbiamo fatto. Sai cosa dire? Sto iniziando a sbiascicare, quindi è il momento di abbandonare la nave. No, vabbè. Allora, stavo dicendo... Vai. Sai cosa... Per favore, puoi venire rasata la prossima volta che mi irriti. Lei vuoi che venga rasata lei? Dove? No! Da! Che delicatezza! La figa! Dove? Sei te che hai complicato. No. Cioè, guarda che la volgarità sta nel... Sì, appartiene a me, a te no. Io sono un signore. Sì, principe Carlo. Comunque. Tanto ti stai muovendo... Inizi a avere, sembri una cosa, una boa. No, sai cos'è? Che mi rompo i coglioni, tira fuori il microfono. Se vuoi ti tengo il bicchiere, ti do da bere così tu hai le mani libere. Vedi tu, saresti come ti sei gentile, più comodo. Saresti molto gentile. Facciamo con bocchino. Beh. Presentiamo il prossimo, sappiamo chi è, io lo so. Chi è il prossimo? È un tuo amico, l'hai portato sempre tu, quindi i primi due li hai portati tu. Ah, ognuno si assume la responsabilità di chi ha portato. È doppiatore bastardo. Doppiatore bastardo che è venuto qua due giovedì fa, l'abbiamo messo primo per provare a fregarlo, invece si è difeso benissimo. No, l'abbiamo messo quarto. No, l'abbiamo messo primo. No, dico stavolta. Vabbè, buonanotte ragazzi. Ho detto l'altra volta l'abbiamo messo primo. E adesso? Adesso. Vabbè, chiamiamolo tanto per... Francesco! Ma sì, cosa gli cambia? Vai, vieni! Frega? Tanto non è che stava facendo bene, pezzo eh! Pezzo di merda! Non lo so. È stato un piacere! No, sta qua. Aspetta, Vale, sta qua. Anzitutto, nella scaletta non c'ero io, infatti ero lì che mi grattavo i coglioni tranquillamente. Chi c'era la settimana scorsa? Due settimane fa? Ok, perché stasera faccio un pezzo che non fa un cazzo di ridere a nessuno. Potete garantire a quelli che è la prima volta che mi vedono che l'altra volta è andato bene, quindi sono stato divertente. Allora, posso dire che io lo conosco molto bene e l'altra volta è andato discretamente per compassione del pubblico. Che c'era il ragazzo pelato comunque. Ma il bastardo pelato che tira lui porta le risate del pubblico. Tra l'altro mi ha fatto ridere perché stamattina... Che porti l'entusiasmo. Porti l'entusiasmo, è vero. Stamattina mi scrive, mi arriva un messaggio da Valerio, no, che vabbè, doveva fare la serata, e mi fa... Io i suoi messaggi li leggo con la sua voce, quindi vabbè. Ciao Francesco, non è che posso stare da te stasera, ho litigato con l'amorosa. Per me va bene, ma dentro di me, ma perché c'hai l'amorosa? Infatti hai parlato del sacco di merda di prima, ma anche tu sei un sacco di merda. Poi vedo la sua ragazza e dico, ma è un pezzo di figa, infinito. Come cazzo fa a stare con te che fai schifo all'universo proprio? Se lo stanno chiedendo tutti in sala, come Kronk, no? Proprio quella roba... Bon, puoi andare fuori dai coglioni se vuoi. Anche Max ha una fidanzata bellissima. Dov'è Max? Dov'è Max? E fa vedere la... fa vedere. La sei mangiata! Te la sei mangiata, bastardo! Va bene, allora. E non parlate del mio dolce quarto. D'accordo. Questa era forte, se l'è scritta tutta la notte questa, per sorprenderti non hai fatto neanche una risata, pezzo di merda. Sai che questo è il momento più alto di tutta la serata. Meraviglioso. Sono 1,94. Vi assicuro, la settimana scorsa ero forte, ragazzi, ve lo giuro. Vabbè, ditelo, io vi ditelo. Lascio da solo... Da soli con grazie. Lui che farà il suo pezzo più brutto del suo repertorio. Francesco Maggioni! Grazie, grazie. Allora, io mi sono un po' croccato, infatti, a cercare il pezzo. Vabbè, anzitutto mi presento, io sono Francesco Maggioni, sono principalmente un doppiatore, magari la mia voce l'avete già sentita. Conosco Valerio perché facciamo lo Zoo di 105 insieme, bla bla bla. Sì, sono un doppiatore. Sono felicissimo di fare il doppiatore perché è quello che sognavo fin da quando ero piccolo. Poi crescendo ne ho capite le ragioni psicologiche, ovvero la ribellione nei confronti dei miei genitori. Io volevo fare il doppiatore perché fin da quando ero piccolo i miei genitori mi hanno sempre detto di non parlare sopra le persone. Questa è la battuta più forte del pezzo, vedo che è partita sbam. Ma non farò questo pezzo, non farò il pezzo sul doppiaggio. Stavo pensando di fare un pezzo che parlava di bestemmie. Ma invece non farò neanche quello, quindi... Mi spiace ragazzi, ma vi beccherete un pezzo in cui avete presente la regola del comico, no? Stare proprio giù così, no? E parlare con la gente. No, io alzerò proprio la quarta parete, diventerà teatro puro, cioè vi sembrerà di vedere Vittorio Gassman questa sera, l'Exalge, proprio perché il pezzo che ho portato stasera parla di cinema, parla di grande cinema. Quanti di voi sono cinefili? Uno, due, tre, quattro, vabbè. Ma con un po' di film li vedete comunque nella vostra vita. Questo pezzo praticamente è colmo di citazioni di film. Quindi facciamo anche un giochino, un po' da villaggio, un po' da proprio da becero villaggio. Facciamo anche il giochino che quando voi riconoscete una citazione di film in questo pezzo che è colmo di queste citazioni, segnatevelo e dopo vi prendete un premio. Quello che le ha prese tutte quanti, il regalo un mappamondo. E questa era già una citazione, quindi minchia, sono stravanti, cazzo, sono... vabbè. Allora, il pezzo, sul cinema. Sono un doppiatore, mi piace il cinema, chi se ne frega del preambolo, partiamo col pezzo, che già dura poco, quindi... Allora, essendo un doppiatore, ed essendo... Ve l'ho già detto che faccio il doppiatore, non lo so, okay. Essendo un grande amante del cinema, mi sono voluto immaginare come sarebbe la nostra vita, la nostra quotidianità, se per un solo giorno, proprio un solo giorno, dall'inizio alla fine, il cinema, con una magia, si impossessasse della nostra quotidianità, donando a tutte le persone che ci circondano le frasi celebri dei grandi film. E me la sono voluta immaginare, ci ho scritto questo pezzo, che vi dico già non fa tanto ridere, ma è bello, ve lo assicuro, è bello. Se non vi piace, comunque, diteglielo, 2 settimane fa era andata bene, quindi... Questo è. Si comincia, naturalmente, dal suono della sveglia. Sono un uomo e come tutti i maschi ho scorreggiato tutta la notte. Adoro l'odore del napalm la mattina. Poi vado in bagno, mi lavo faccia e denti, mi guardo allo specchio e spumeggiante! Ting! Poi vado in sala e vedo mia madre, mio padre e l'idraulico. Dobbiamo dirti la verità. Io sono tuo padre. Rimango sconvolto. Ma basta un po' di zucchero e la pillola va giù. Poi guardo l'orologio, devo andare al lavoro. È tardi assai, io sto già in mezzo ai guai. Prendo tutte le mie cose, schizzo e mi fermo sull'androne. Adriana! Adriana! Adriana è la portinaia del mio palazzo. Ho dovuto prenderla a pugni in faccia perché mi aprisse il portone. Prendo la macchina e schizzo in mezzo al traffico, ma ad un certo punto... Tu non puoi passare! Era il vigile perché stavo andando sopra i 50. Tiro giù il finestrino e... Francamente, me ne infischio. Tre multe ed arrivo a lavoro in ritardo. Arrivo finalmente a lavoro e prima di iniziare a lavorare il nostro capo ci dice: al mio segnale, scatenate l'inferno. E allora comincia tutto il tran tran e per la prima volta risolvo un problema che pensavo fosse impossibile. Mi metto in piedi sulla scrivania e dico: ma allora, sì, fare... Suscito la gioia di tutti i miei colleghi che si mettono in piedi sui tavoli e mi dicono: oh capitano, mio capitano, rivela i tuoi segreti. Mi spiace, ma io so io e voi non siete un cazzo. Scatta la pausa pranzo, vado in mensa e vedo Jack, il mio collega, che sta mangiando una succosa bistecca. Com'è la bistecca, Jack? Ti fidi di me? Sì, e allora non prendere la bistecca. La Madonna, fa così schifo. Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi. Ah, vabbè, allora chiedo alla cuoca. Cosa c'è da mangiare? Supercazzola prematurata con scappellamento a destra e a sinistra. Ah, vabbè, allora prenderò la pasta. Maccherone, m'hai provocato e io ti distruggo. Durante il pomeriggio rincasino il problema che avevo risolto la mattina. Allora il capo a quel punto mi richiama: Maggioni! Stai parlando con me? Stai parlando con me? Non vedo nessuno, quindi stai parlando con me? Ma sei stupido cosa? Stupido è chi lo stupido fa? Licenziato. Ma nessuno mette baby in un angolo, così io ho rigato la macchina e vaffanculo, no? Il bello, non so se vi è mai capitato, ma il bello di essere licenziati in pieno pomeriggio è che hai il pomeriggio libero, quindi fantastico, no? Vedi, trovare le cose positive. Così vado a fare la spesa, ma non mi ricordo che cosa devo comprare, quindi prendo il cellulare, chiamo mia madre e ti telefono casa. Stai forte, questa. Il mio tesoro! Ciao mamma, cosa devo prendere per stasera? Ma stasera ho voglia di mangiare fegato con un bel piatto di fave e una bella bottiglia di Chianti. Tup! Interferenza. Vabbè, prendo tutto quello che devo prendere, vado alla cassa, mi rendo conto di non avere abbastanza soldi per pagare, ma la cassiera... Io faccio un'offerta che non può rifiutare. Arrivo a casa, apro la porta, mio padre mi dice: indovina chi viene a cena? Questa è una mezza citazione, vabbè. E io gli faccio: sì, di un Poitiers? E invece no, era ancora l'idraulico di stamattina. Mangiamo tutti insieme appassionatamente. Finita la cena, ora stanco capo, stanco morto. E me ne vado in camera mia. Mi distendo sul letto con un sorriso che si allarga piano piano guardando il soffitto. Allarme spoiler, questo è il finale di C'era una volta in America. Perché magari qualcuno non aveva colto. È capolavoro, però vi ho appena risparmiato 3 ore di smantellamento della minchia. Comunque, appunto, sto guardando il soffitto e ripenso a... Che bella la vita da film. Peccato sia stata solo una giornata. Ma va bene così, dopotutto domani è un altro giorno. Grazie. Allora. Vi è piaciuto sto pezzo? È bello, non fare un esercizio di stile. Cioè, praticamente ero qua a segarmi sul vaffanculo. Grazie. Grazie. Perché ringrazio io non lo so. Francesco Maggioni. Quando si dice, no, la comicità è un comunque un qualcosa che va studiata, che non è questa la serata. Questa è la serata in cui si sale sul palco, si dicono parolacce, si bestemmia. Ma poi finora non è stato neanche così. Finora sì. Loro sono stati anche bravi, facciamo più schifo io e te. Ma perché sbagliamo i comici? Ah, dici che li prendiamo troppo bravi e ci fanno sfigurare. Sono dei comici che si preparano noi. Invece io e te beviamo sto cazzo di vizio. Dovremmo smettere. Sì, soprattutto se inizi a ondeggiare. Oh, alla fine siamo mai volati giù dal palco. Apposta, dai, fai vedere che sei un professionista, sei seri e puoi bere altre 2 bottiglie e vai avanti un'altra ora. Fai vedere. Facciamo la sfida del vino. No, davvero, sarebbe proprio l'ultima cosa. La teniamo per l'ultima serata. Ah no, l'ultima serata, facciamo questa cosa qua. È una cosa seria che lancio una sfida ufficiale a Valerio. Io sono di Mantova, lui è di Piacenza. Io e Valerio andiamo molto d'accordo. Litighiamo dai, ma poco Dio, però. Litighiamo per una cosa in maniera molto violenta. per chi delle due città abbia il salame migliore. Ma vai a fare in culo. Che a Piacenza. Dai, ma Piacenza, allora, Piacenza è l'unica città che ha tre salumi DOP. Sì, DOP. Il tuo cazzo di salame è DOP? No, e allora va a cagare. Ma chi lo decide che DOP? Fai la coppa. Che... Ma chi sei tu? Chi Grazie. Sei? Chi sei tu che ha... Sono tre su ve... Sono tre, eh? Comunque la sfida è porteremo un salame a testa l'ultima serata e sarà il pubblico a decidere. Va bene? Io ti dico, va bene, perché tanto so già che vinciamo noi. Ma non vinci, sapete fare a malapena una cazzo di coppa. Che cazzo fate i salami? Io non ti metto le mani addosso solo perché è un evento pubblico. Ma facciamolo, che invece magari la serata sale. Chi vuole vedere una sfida all'ultimo duello? Nessuno, gliene fotte un cazzo. Guarda come sono... Ma voi ci conoscete, ragazzi, fa pena che fate voi sì. È brutto, è proprio brutto. Chi è in questa sala per il pacifismo? Alzi la mano. Nessuno, tutti. Viva la guerra in Ucraina, dai. Fuori dalla sala, per favore. Non siete il nostro pubblico. Noi vogliamo guerra fondai. Noi vogliamo della gente di merda. Troppo. Perché questo è un bel posto, loro sono dei bravi ragazzi, c'è una bella gestione, tutto molto bello. Contrasto alto-basso, che è tutto giocato sul fatto che loro sono simpatici e noi no. Esatto, tutto sul fatto che il pubblico è simpatico e noi no. Esatto. Presentiamo il terzo? Chi è? Perché senti come sta andando giù. Senti che è sempre più giù, senti il buco nero. Chi abbiamo deciso di mettere come terzo? Ci vuole uno che possa risollevare la serata, un professionista. Terzo, te la senti? Lui lo sa, gliel'ho detto prima e ha fatto sì con la testa. Ma era un sì così. Cioè era un sì così, quindi ho detto preferirei andare quarto. Però se mi mettete terzo, vado terzo. E allora è il nostro uomo. Lui è venuto qui. Tu lo sai chi è vero, perché la stai prendendo larga. Io ti conosco da un po', eh. Vai, vai, fai tutto l'iperbole, poi il nome lo dico io. In realtà sapevo benissimo chi era. Oppure potrei sbagliarmi e annunciare sesto. Prova, ne diciamo due diversi a caso. Lui! È venuto qui la prima volta come quota bella persona. È lui, vedi è lui. Vedi che è lui? È lui. Poi è diventato un cocainomane puttaniere del cazzo. Fate un grosso applauso ad Alberto Vitale. Grazie. Ci tengo a dire che è tutto vero. Questa è una cosa importante. Allora, intanto vi chiedo scusa, sono un po' stanco, ieri sono tornato tardi, sono stato un addio al celibato di miei amici cannibali e la donna non è neanche uscita dalla torta. Allora, come avrete notato, sono pelato anch'io, solo che da me non si vede perché mi ricrescono sempre i capelli sopra. Qualcosa su di me, allora io ho passato la mia infanzia tra Roma e Zurigo, e a Bologna, che è a metà strada. Se lo sapete, Bologna ha una vita segreta fatta di ripicche, di tradimenti, di vigliaccate. Bologna infatti è piena di circoli del PD. Tra l'altro sapete che Bologna è un po' schierata politicamente, sappiate che a me da giovane mi chiamavano El Che perché ho fatto solamente metà del cepu. A Bologna io ho fatto i Salesiani, dove mi hanno insegnato i tre principi importanti di obbedienza, povertà e castità. Allora, obbedienza non ce l'avevo molto perché sono un po' ribelle, povertà non ce l'avevo molto perché i miei lavorano tutti e due, castità ne avevo in abbondanza ma non per mia scelta, tra l'altro castità che ci tengo a dire ho tuttora, a cui si è aggiunta la povertà. Mi piacciono, vabbè, prima abbiamo citato i film, posso dire che anche a me piacciono molto i film. Recentemente ho visto il seguito di Castaway, avete sicuramente visto Castaway, c'è quell'uomo naufrago che si deve dare da fare per cercare da mangiare, quindi pesca, mangia le noci di cocco, insomma è un gran sbattimento. Nel seguito lui finalmente torna a vivere in città, non ha più voglia di sbattersi e ordina tutto a casa, si chiama Takeaway. Mi piacciono gli animali, dico la verità, mi piacciono gli animali, però gli animali intelligenti, quindi io ho avuto per un bel pezzo un delfino in casa, l'avevo rapito all'acquario di Genova e lo tenevo nella vasca da bagno. Allora, i delfini è un animale molto intelligente, sono rimasto un po' deluso una volta in cui gli ho un po' parlato, insomma gli ho chiesto cosa ne pensasse della teoria economica mondiale e lui mi ha risposto... Che era palesemente la teoria dell'anno prima, ci sono rimasto male. Però era giunto aprile, quindi era il mese in cui io mi faccio il bagno, e quindi ho appoggiato un attimo il delfino fuori. A me piace fare il bagno con grande calma, quindi stare lì nell'acqua tranquillo, con le candele, la musica, un bicchiere di vino per ore e ore. E niente, alla sera abbiamo mangiato tonno. Poi sono passato a un altro animale ancora più intelligente, devo dire, ora, e anzi anche qui con me. Io ora giro sempre con un calabrone. Voi sapete che la struttura alare del calabrone in rapporto al suo peso non è adatta al volo, ma lui non lo sa e vola lo stesso. Il mio è molto intelligente, quindi lo sa e non può volare. Quindi attenzione, perché gira qua e quindi è abbastanza pericoloso. Io dico, questi sono problemi miei. Niente, in generale, no, grazie, ma... Che dirvi? No, in generale devo dirvi che, a parte queste cagate, in realtà è molto difficile stare su un palco. È difficile perché ci sono tante persone che ti guardano, davvero, è una roba molto emozionante. È un po' come quando un calciatore tira un calcio di rigore, quindi è davvero una cosa che ci vuole coraggio ed è difficile. Non è da questi particolari che si giudica un giocatore, no? Diceva De Gregori. Che poi chissà perché De Gregori, cioè perché non semplicemente Gregori? Cioè, probabilmente perché voleva darsi un'area da nobile, no? Come Lorenzo De Medici, come Giorgio De Chirico, come Paperon De Paperoni, De Gregori, bravo lui, bravo De Gregori, eh? Io me lo vedo lì che scrive le sue canzoni accarezzando il suo levriero, bevendo il suo cognac, e poi chiama il suo lacchè: generale, dietro la collina c'è il mio tabacco da pipa, me lo porti per cortesia? De Gregori! No, scusate questa roba, ma ci pensate, c'è il più umile degli uomini, come si faceva a chiamare? Gesù di Nazareth, non Gesù de Nazareth. Invece lui, De Gregori, che si chiede chissà chi, che poi voglio dire, che canzoni ha fatto? Ha fatto una roba, cosa ha fatto? Ha fatto Girardengo lì, quella del ciclista, uno che pedala, quindi una cosa assolutamente plebea, una roba stancante, non può essere nobile. Ha fatto La Donna Cannone, il circo, uno sport anche quello, una roba per divertire la plebe. Titanic, la terza classe, voglio dire, cioè, sei il nobile De Gregori, cazzo, fai la terza classe, ma occupati model della prima classe, non so, dello yacht di Briatore. Cioè, questa, scusate, queste robe qua sono cose mie che mi danno un po' fastidio, non c'entrano col pezzo, ma a me dà fastidio la gente che si dà delle arie, no? La gente con i baffi sotto il naso, come lui, cioè, una roba pazzesca, mi dà fastidio la maleducazione, come quelli, capito, che magari urtano la macchina così e non ti lasciano neanche un bigliettino. È una roba terribile, può capitare, voglio dire, giusto? Anch'io l'altro giorno ero lì in macchina, tranquillo, ero lì che guidavo, tranquillo, ascoltavo la musica. A un certo punto in radio passo un pezzo di De Gregori, cazzo, io mi distrago e vado contro una macchina. Però scendo, cosa faccio? Gli lascio un bigliettino. Lascio un bigliettino perché sono educato, gli scrivo, guardi, mi spiace, sono stato io, mi dispiace, se ci vediamo in giro ti offro una birra. Ho il numero di telefono, non lo lascio, no, il numero di telefono non lo lascio mai perché è pericoloso, perché non sai mai chi ti possa chiamare. Cioè, metti caso che quell'altro sia un violento. Che cazzo, metti caso che sia un maniaco. Metti caso che sia De Gregori, che cazzo, che mi chiama per vantarsi il suo cognome importante, che cazzo, De Gregori, vantati, bravo, cazzo, scusate sta roba, perché poi tra l'altro io odio anche i cellulari in genere, i cellulari mi danno fastidio, perché i cellulari hanno ucciso la conversazione, hanno ucciso l'amicizia, queste cose belle, una volta ci si trovava nei locali a parlare, adesso no perché c'è il cellulare, e nei locali, i locali sono vuoti, e nei locali vuoti cosa succede? Rimane il barista, poveraccio, che non fa una lira, e cosa fa il barista vuoto? Beve per dimenticare. E più beve più dimentica, e alla fine dimentica che il locale è suo, rimane lì ubriaco, sdraiato per terra e finisce tutto. E metti caso che quel giorno stia arrivando una persona importante, metti caso che entri, che so, De Gregori, cazzo, che magari poteva metterli una foto sulla parete di fianco a De Niro e dall'altra parte De Sica, che cazzo, allora no, lui ci rimane male perché cazzo arriva De Gregori, lui non c'è niente da offrire, cosa fa? Prende la macchina e esce, scappa, però è ubriaco, e cosa fa? Allora va a sbattere contro un'altra macchina. Metti caso che quella macchina sia di De Gregori, che cazzo, lui ci insiste, lui ci rimane male quella macchina, perché quando gli aggraffiano lui si incazza, lo so perché una volta gli ho aggraffiato anch'io, e mi ha chiamato e si è tutto incazzato, ma per fortuna ha urlato, ma per fortuna io non lo sento, non l'ho sentito perché io sono mezzo sordo, vi dico la verità, sono mezzo sordo perché mi piace ascoltare la musica rock, mi piace ascoltarla in casa, tutto volume, non me ne frega niente dei vicini, tra l'altro io con i miei vicini posso dirvi ci litigo, perché gente che fa rumore alle 3 del mattino sposta i mobili, quindi... E la cosa che mi dà fastidio non è tanto il rumore, ma il fatto che i mobili sono quelli di casa mia e io mi trovo a letto nel corridoio. Però, a parte questo, insomma, comunque, c'è un casino, io faccio casino, non mi interessa. Il mio vicino di casa ogni tanto viene a lamentarsi, ogni tanto, spesso, sempre, viene lì, bussa, io non lo sento, e si mette lì a attaccare il campanello, e suona il campanello. Però, ragazzi, come suona il campanello lui? Lui è un musicista, una persona nobile, uno con il De. Cristiano De André. Grande Alberto Vitale, avete visto come la serata è? Schifo, schifo, schifo, e poi sale. Cosa fai? Alberto Vitale! Adesso chiamiamo... chiamiamo... Già? No, dimmi, no, non volevo... Chiamiamo, chiamiamo. Hai una roba... No. No, ma fai, non volevo. Ma te volevi? Ma insisti? Dimmi tu. Vuoi fare? Fai tu, prego. Abbiamo il pezzo di Andrea Fadenti. No, non è vero, ma io davvero non avevo niente. Ah, scusa, non ci siamo capiti. Va bene, dai, faccio qualcosa io, va bene. Vai, Andrea Fadenti, un applauso! Guarda uno, cosa ti alzi quando faccio io? Cosa ti alzi quando inizio? Dai, che tristezza. Io tra l'altro ho detto sì, ma non ho niente pronto, quindi vediamo un po'. Inizio a spostare questo, così facciamo un po' di ordine. La sala si sta svuotando. Va male, sono le 11, no, 10:40. Chi è che è stanco? Sincero, non c'è problema, il nostro scopo è questo. Nessuno, forse siamo più stanchi io e Valerio, per questo non stiamo riuscendo. La signora annuisce, fa accenno, sì. Vabbè, io l'altra volta ho parlato un po' sempre di cose di mie con la mia ragazza, che magari non interessano nessuno, ma ne parlo un po' anche stasera, nel senso che ci amiamo molto, ci vogliamo molto bene, stiamo insieme da 7 anni, 6 anni, però litighiamo molto perché siamo molto diversi fondamentalmente, cioè proprio come il giorno e la notte, cioè proprio due persone completamente agli opposti. Io sono Scorpione, lei è testa di cazzo, e quindi anche proprio da un punto di vista astrologico non ci prendiamo. In realtà non ho nessun pezzo sulla mia ragazza, semplicemente ho litigato, volevo dire questa cosa qua, volevo dire che lei è una testa di cazzo, quindi io il mio l'ho fatto. No, andiamo oltre. Come state? Come va la vita in generale? Bene. Riscaldamento globatico, Meloni presidente del Consiglio e guerra che dura da 8 mesi. Ve lo richiedo, come va? Bene. Sentivo un po' di entusiasmo non giustificato. Come state trovando quest'Italia dopo le elezioni? Una merda, però detto a bassa voce non è bello, eh? Questa è la resistenza che ha permesso alla Meloni di vincere. Com'è? Una merda? No, scherzo, stai ragione, anch'io non ho detto niente, quindi figurati. No, cosa vi posso raccontare? No dai, vi racconto una cosa che mi è successa tanti anni fa. 20 anni fa, io faccio 39 anni fra 15 giorni, quindi fra 15 giorni dove c'è una serata qua avremo anche il mio compleanno. L'ultimo anno da 39enne. No, i salami li facciamo all'ultimo, così ogni giovedì cerchiamo di fare un avvenimento che vada sopra le nostre esibizioni. Comunque, 39 anni, che è un po' la fine dell'età giovane, cioè diciamo davvero è l'ultimo punto di non ritorno prima di arrivare ai 40, quindi è finita l'adolescenza, è finito il tempo delle canne, è il momento di diventare adulti e passare direttamente alla cocaina, cosa che ogni tanto faccio poche volte. Ma pochissime, non ho un grande rapporto con la cocaina perché tende ad agitarmi. Poi l'avevo fatto un po' di volte con la mia ragazza, quella che dissi testa di cazzo, e il famoso detto che si dice in giro tutta la notte coca e mignotte non funziona, perché dovrebbe essere tutta la notte coca e un cazzo di 5 centimetri che non si vuole alzare. Che non ce n'è, perché la cocaina proprio ti stringe i vasi e sostanzialmente il sangue che dovrebbe andare al cazzo non va, e quindi il cazzo non si alza. Cioè, quindi anche il famoso detto popolare, proverbio popolare, tutta la notte coca eccetera eccetera, non è vero. Restando in tema sessuale, vi racconto una cosa che mi è successa 20 anni fa, e vado a prendere un po' il senso di tutto. Avevo 19 anni ed è una storia vera, vera in tutto e per tutto, non c'è davvero, no, forse sì, vabbè, no, è vera. Ed è un episodio di violenza sessuale, di molestia sessuale, che mi ha visto coinvolto in prima persona, come vittima. Specifico, perché sennò sembra che non è ancora andato in prescrizione. No, forse sarebbe già andato in prescrizione, quindi posso dirlo platealmente. Vabbè, ve lo racconto. Sostanzialmente io all'epoca avevo 19 anni e avevo come sogno un po' quello di fare lo scrittore, quindi di scrivere qualsiasi cosa. E tramite mio padre, che all'epoca aveva 60 anni, quindi abbiamo 38 anni di differenza di mio padre, tramite lui conosco questo suo amico coetaneo, quindi 60enne, scrittore che scrive dei romanzi. Dei romanzi di merda, però scrive dei romanzi. Io non ho esperienza, quindi dai, mi vuole fare un incontro perché dice, cazzo, vorrei iniziare a lavorare con un ragazzo giovane per svecchiare un po' il mio linguaggio. Io volevo iniziare a lavorare, quindi iniziamo a scrivere assieme. Io gli mando della roba, lui mi manda della roba, iniziamo a scrivere, questo libro prende forma. Dopo 2 o 3 mesi in cui tutto va benissimo, una sera mi invita a una conferenza a 3 ore da dove abitiamo noi. Mi dice, vestiti bene, giacca e cravatta, andiamo a sta conferenza. Io e lui in macchina, andiamo alla conferenza, mangiamo, beviamo, ascoltiamo i relatori, torniamo indietro. A metà strada, più o meno, dice una cosa paternalista, non ricordo esattamente cosa, e ad un certo punto la mano gli scivola sulla mia gamba, più interno coscia. Indugia qualche secondo, non dice niente. Io sono lì che dico, vorrei dire qualcosa, ma dentro di me penso, ma davvero mi sta mettendo la mano vicino al cazzo? Non dico niente perché non riesco a avere quella prontezza, lui toglie la mano, arriviamo a casa, sani e salvi tutti e due. Passa del tempo, dopo un po' di tempo mi chiama e mi dice, guarda Andrea, ti devo parlare perché ho bisogno di chiederti delle cose. Io credo che voglia parlare del fatto successo appunto 2 o 3 mesi prima, invece no. Siamo sempre in macchina, non so perché il molestatore scelga la macchina, ma probabilmente è la sua comfort zone. Siamo in macchina, lui guida, io no, e ad un certo punto mi dice, guarda Andrea, per continuare a lavorare assieme va tutto bene, mi trovo bene, però io devo sapere di potermi fidare di te ciecamente. E gli dico, guarda Roberto, si chiamava come mio padre, pensa, non è coincidenza. Dico, guarda Roberto, tranquillo, ti puoi fidare ciecamente di me. E lui, io però ho bisogno di una prova fiducia. E io gli dico, vabbè, dimmi qual è sta prova fiducia. E lui, mi devi fare un pompino. Strana prova fiducia, penso. Però decido di stare al gioco. E dico, c'è problema. Però capisci bene, Roberto, che nella posizione in cui mi metti, pure io ho bisogno di sapere di potermi fidare di te. E lui, ti puoi fidare di me? Ho bisogno di una prova fiducia. E lui, dimmi qual è la prova fiducia. E io, ho bisogno che tu ti fidi sulla fiducia. E lui, ma io come faccio a fidarmi sulla fiducia se tu non fai la prova fiducia? E io, ma la mia prova fiducia consiste proprio nel fatto che tu ti fidi sulla fiducia. Sono andato avanti mezz'ora, l'ho spiazzato e alla fine l'ho convinto a farmi un pompino. Pensa che giornata matta! Cosa posso dire? Ah sì, dico questa cosa qua. Vabbè, dico ancora 2 cazzate che vedo se fa ridere o meno. Probabilmente no. Vabbè. Scusate, ho il Covid. Nessuno ride, no, non ce l'ho. No, magari sì, però vabbè. Vabbè, io vengo da Mantova. Chi conosce Mantova? Madonna, nessuno. No, sì. Vi piace Mantova? Ditemi la prima roba che vi viene in mente per... No, vabbè, a tanti salami. Tortelli, brava. Zucca, bravo. Gonzaga, no, lo dico io, non lo sapete, siete ignoranti. Solo Magnà, la storia, col cazzo, Festival Letteratura, i Tre Laghi, bella. Ma la vera chicca che solo Mantova al mondo ha, davvero, se voi guardate su internet ce l'ha solo Mantova, è il numero pro capite di maiali. Tutta la provincia di Mantova, ci sono 400.000 abitanti, 1.200.000 maiali. 3 maiali a Mantovano. Siamo quasi alle 4 mogli degli emiri. Siamo a tanto così dalla poligamia, poliamore, come cazzo si chiama. C'è proprio un ufficio del comune che controlla che tu abbi i tuoi 3 maiali, cioè finché sei residente. Infatti io abito qua da 15 anni, però la residenza l'ho cambiata 2 anni fa. E ci sono stati sti numeri di anni dove io non vivevo là, ma avevo la residenza là, che c'erano i miei maiali là, e poveretto c'era uno che non li aveva. Quindi tutta... Questo non ha nessun senso, però ho detto, la dico, vaffanculo, che cazzo me ne frega. Adesso dovrei trovare una bella chiusa in salita, ma onestamente non ce l'ho. Dai, dico una cosa che forse qualcuno l'ha sentita anche l'altra volta, ma non è un problema, è proprio una cosa, la mia più grande passione. A me la cosa che piace tanto dei pedofili, vi ho gelato, vero? A me piace tanto dei pedofili il fatto che, se voi vi dimenticate per un secondo che loro scopano i bambini, provate a togliere questa equazione, fate finta che sia un'arancia, toglietelo, ah, abbiamo le arance, non scopano i bambini, camuffatela. Vi renderete conto, se avete letto dei libri o guardato qualche documentario tipo su Netflix, che sono bravissime persone, anche gli stupratori, ma più i pedofili. Vi spiego perché. Il pedofilo medio, per fare il pedofilo, non fa la vita che facciamo noi, con le tasse, con l'IMU, con i litigi con la fidanzata e i problemi del governo e il clima e la guerra. No, il pedofilo non può stare dietro a queste cose qua. Il pedofilo deve fare una cosa che se lo scoprono gli fanno un bucio di culo tanto. Quindi il pedofilo deve essere una persona organizzata. Di conseguenza è una persona precisa, è una persona metodica, è una persona silenziosa, è una persona che paga le tasse, che paga le multe, che paga la Tari, che ha un lavoro stabile, che ha una casa stabile, che ha affetti stabili. Il pedofilo, se non avete figli, è il vicino di casa ideale. Perché non fa casino fino alle 3 di notte con la casa piena di gente. Il pedofilo alle 8 di sera è a casa, casa sua, camera spenta sul dark web, a masturbarsi. Vicino di casa ideale se non avete bambini. A forza di ripeterlo, vedo che vi state ammorbidendo. Perché una persona che fino a questo momento aveva fatto anche un bel pezzo decide di chiudere tutto con i pedofili? Questa è la vera domanda. Ma facendo queste cose si impara che certe cose magari le metti prima e non le metti dopo. Ma così, perché questa è una delle esibizioni più belle mie. Mi piace perché potrei andare avanti 20 minuti, perché ho bevuto talmente tanto che non sono ubriaco, ma sono in quella situazione in cui mi sento sereno. Però visto che non voglio parlare ancora di pedofili, di stupri, di cose molto brutte, ti piace? Così vai a letto e fai dei bei sogni. Signori, portate i vostri bambini la prossima volta. Chiamo il mio collega Valerio Erò. Sono belle persone. Perché è diventato un film muto? Cazzo sta succedendo? Ti lascio, vuoi fare? Mi hai rovinato la mia performance! Era proprio quello che volevo fare. Io nasco allievo dell'Abramovic. Stavo facendo una performance che doveva durare 3 ore e mezza. È arrivato il test di cazzo, me l'ha rovinata. Vabbè, allora vi racconto una storia, così, tanto per, visto che siamo fra amici. Vi racconto di quando mi sono esibito qualche anno fa in un locale, zona Lambrate, dove la gente si diverte, è il Joy. Mi sono esibito lì e a fine serata, come ogni tanto mi capita, ero ubriaco come una merda. Dovevo andare a dormire in un posto che distava 5 km, e però i mezzi erano chiusi, io non ho la macchina, e capite, farsi 5 km a piedi da ubriachi come le merde è un'odissea, cazzo. Quindi provo a chiedere un passaggio. Vado al proprietario del locale e faccio: ma da un passaggio! Mi fa: mi spiace, ma non ho la macchina. Anche vado dalla cameriera, timidissima, giovane, appena assunta. Le faccio: ciao! Sei bellissima, sei la cameriera più bella che abbia mai visto in questo locale. Me lo dai un passaggio? Lei arretra. Mi fa: guarda, mi dispiace, ma io devo andare dall'altra parte rispetto a dove devi andare tu, e sinceramente mi fai anche un po' schifo. Niente da fare, quella sera mi tocca camminare, quindi io inizio questa camminata con il telefono in mano e Google Maps acceso per dirmi dove cazzo devo andare. E mentre ho il telefono in mano acceso, lo utilizza anche per andare su bacheca incontri per vedere se trovo una prostituta. Mi era venuta voglia. Siccome era tardi, non rispondeva nessuna, l'unica che mi risponde mi fa: ciao tesoro, dimmi tutto. E le faccio: quanto vuoi? Parto da 100. Non ce li ho 100. Lei mi butta giù il telefono in faccia. Vabbè, continuo a camminare, mi trovo in una lunga, larga via di Milano. In questa lunga, larga via mi trovo davanti al portone di un condominio. Ora, io sono curioso già di mio, di base, figuratevi da ubriaco. Provo a vedere se il portone del condominio è aperto. È aperto. Entro, mi trovo in mezzo, fra le due porte che portano alla scala A e alla scala B. Provo ad aprire la scala A, è chiusa. Provo ad aprire la scala B, è chiusa. Vabbè, sti cazzi, riprendo la mia camminata, mi dico. Soltanto che entrando nel portone del condominio, il portone me lo sono tirato dietro. Si è chiuso e l'apertura è con il pulsante. Il pulsante non si trova. Provo a cercarlo un po', non si trova. Provo a cercarlo ancora, non si trova. A che la mia brillante mente ubriaca pensa: sono in difficoltà. Ho bisogno d'aiuto. Chiamo il 113. Chiamo il 113. E nel mentre che il telefono squilla, io mi rendo conto che forse era una cazzata. Cioè, mi immagino già caso Cookie con i poliziotti che vengono e mi pestano di botte perché mi sono infiltrato in un condominio. Quindi metto giù. Il 113 mi richiama. E io rispondo. Dall'altra parte del telefono mi fanno: sì, ci ha chiamati? E io faccio: sono ubriaco, mi sono chiuso dentro al portone di un condominio. Ma forse non era il caso di chiamarvi. Risposta: veda un po' lei. E l'omino del 113 mi butta giù il telefono in faccia. E mi piace farvi notare a questo punto della storia come due categorie di persone spesso avverse, come le prostitute e i poliziotti, siano simbolicamente unite in questo racconto nel gesto di mandarmi a fare in culo. Alla fine trovo il pulsante. C'avevo alle spalle. Esco, riprendo la mia camminata e dopo aver attraversato questo lungo, largo vialone mi trovo in una via più stretta, più angusta e lì trovo un enjoy. Ora io ero ubriaco marcio e in più non guido. Cioè ho la patente, però non guido perché la signora che mi ha dato la patente mi ha detto: guarda, io ti do la patente perché sei simpatico e mi dispiace che se ti boccio devi rifare il foglio rosa, però stai attento. Quindi da lì io non ho mai guidato. Voi capite i tanti morti che ci sono negli incidenti autostradali. Ora, era un'idea del cazzo prendere le joy, palesemente, però la mia brillante mente ubriaca pensa: qui la strada si fa lunga. Proviamo a iscriverci. Provo a iscrivermi sul sito dell'Enjoy e non ci riesco. Ero troppo ubriaco. Quindi adesso io vorrei un momento un po' serio, perché voi capite bene che io ero ubriaco come una merda, non guido. Se io fossi riuscito a prendere quella macchina avrei potuto fare danni a me o ad altre persone che non c'entravano niente. Quindi per favore, quando uscite in serate come questa, bevete responsabilmente. Oppure ubriacatevi come le merde al punto tale che non riuscite a farle le minchiate. Alla fine mi rassegno, dico ok, mi tocca camminare stasera. Continuo la mia camminata quando il telefono che ho in mano con Google Maps acceso per dirmi dove cazzo sto andando, squilla. Numero che non ho segnato in rubrica. Rispondo. E dall'altra parte del telefono mi fanno: ciao tesoro, prima ero impegnata, ma se vuoi adesso ci sono. E io le rispondo: quanto vuoi? Con 50 faccio tutto. Tutto tutto? Tutto tutto. Me ne dai un passaggio? Andrea Fadetti, torna qua! Che presentiamo... Ho un secondo capitolo sui pedofili che magari... Andrea! No, non è vero, non è vero! Volevo... Stavo scherzando. Boh, ma secondo te... Ma te mi illudi così? Vabbè, madonna mia, ma... che mi piace quando parli di pedofili. No, no, adesso infatti dobbiamo presentare uno che abbiamo il dubbio che sia... Cos'è che dicevamo? Che faccia... Ah, è vero. Abbiamo il pezzo forte adesso. Bravo, allora... Per quello l'introduzione sui pedofili, perché... Prossimo comico... Sembra un po' un pedofilo, un po' una donna obesa, un po' un figlio di puttana. Signore e signori, Alessio Sartori. Teniamo la linea allora. L'argomento di stasera di cui vi voglio parlare, ma che cazzo di aste di merda ci sono? Il locale è bellissimo, però le aste fanno cagare. Teniamo la linea e vabbè, il baffo da pedofilo ce l'ho. Ciao a tutti, sono Alessio. Ciao. Tutto bene? Io sono un po' emozionato perché, allora, io praticamente un po' di anni che non salgo sul palco e stasera ho detto, ma sì, ma perché no, dai, saliamo sul palco a dire ste quattro cagate. E l'argomento di cui volevo parlare è un argomento abbastanza banale. Abbastanza banale, che è l'amore. Un argomento che, diciamo, che fa parte della nostra vita quotidiana. Tutti abbiamo qualcosa che amiamo durante le nostre giornate, la nostra famiglia, i nostri fidanzati, i nostri fratelli. Beh, io no. Io l'amore lo schifo, mi fa veramente schifo l'amore. Io amo l'amore non corrisposto, per esempio. Anzi, vi dirò di più. Per me l'amore è una truffa. Non so se avete preso... che cazzo sta asta però? Oh. Così, va bene. Mi dicevo, per me l'amore è una truffa. Non so se avete presente quelle mail, quei messaggi che vi arrivano qualche volta sul cellulare. Il tuo pacco è rimasto incastrato in dogana. Per sapere che fine ha fatto... Clicca qui. Cazzo, non devi cliccare. È una truffa. Se che clicchi sei un coglione. Allora io mi sono immaginato se, diciamo, questo messaggio te lo mandasse... Aspetta che c'è il tappeto che mi sta dando un po' sui coglioni. Mi sono immaginato se questo messaggio te lo mandasse, per esempio, che ne so, un tuo ex o qualcuno con cui, diciamo, non c'è stato un bel rapporto. Sai che magari ci sono quelle persone che si fanno risentire dopo anni e c'è ovviamente un motivo del perché non si fanno risentire. Metti caso che te lo mandi il tuo ex. Ciao, io e te abbiamo avuto una relazione assolutamente fallimentare. Io ti ho risucchiato tutta l'energia che avevi, tutto l'amore che avevi da dare me l'hai dato e io non ti ho assolutamente ricambiato, ma adesso io sono cambiato. Per capire come sono cambiato... Clicca qui. È una truffa, cazzo, non devi cliccare. È una cazzo di truffa. Allora, io devo essere onesto. Perché io in passato ho avuto anch'io delle donne, poi ho smesso ovviamente, cioè non, assolutamente non ho voluto smettere subito. E per rendermi conto, per avere diciamo la certezza di smettere veramente, terapia d'urto dallo psicologo. Quindi io, ragazzi, 80 euro a seduta, 45 minuti, cazzo, cioè, voglio avere dei benefici. Allora mi siedo su quella cazzo di sedia e lo psicologo, con quella sua aria da persona per bene e rassicurante, mi dice: Alessio, dimmi la verità, ma tu vuoi scopare? Sono qua apposta perché non voglio mai più scopare nella mia vita, quindi cerca di fare qualcosa. E allora impegnati, cazzo! Impegnati, terapia d'urto, ti devi prendere dei due di picche. Io sono il re del due di picche, ecco, mi sono dimenticato di dire questa cosa qui, che io quando si parla di due di picche mi sento un professore universitario, uno che ha la cattedra alle Yale del due di picche, oppure un ultras. L'ultras del due di picche. Ole, ole, ole, ole, seghe, seghe. L'ultras dei due di picche sono. E allora, cazzo, lo psicologo mi dice, impegnati. Dottore, ma io che cosa devo fare? Ti devi prendere degli insulti denigratori per abbassare la tua autostima. Ma come? Degli insulti, cazzo. Provaci con qualcuno e fatti insultare. Ma che tipo di insulti? Verme schifoso. Verme schifoso, va bene, verme schifoso, me lo prendo. Caso umano, va bene, me lo prendo. Devi essere metodico. Lunedì, martedì, mercoledì, insulti denigratori. Prepasto. Postpasto, giovedì e venerdì, ti prendi dei pacchi. Ti puoi prendere dei pacchi da qualcuno, organizzi con qualche donna un'uscita e ti fai paccare. Ho capito, ma io non so come fare. Glielo spiego io. Allora, ci sono tre metodi. Allora, il primo è organizzi e poi di punto in bianco gli dici: oh, ma cazzo, ma che botte di merda che sei. Questo potrebbe essere un buon inizio. Primo. Anche se non lo è. Secondo, foto del cazzo in chat. Che potrebbe funzionare, ma non è il tuo caso, ovviamente. È ovvio. E terzo, puoi dirgli che tifi Juve. Boh, ciao amore, ci vediamo alle 17 all'edicola. Forza Juve. Paccato, subito, immediatamente. Non si presenta, andate tranquilli che non si presenta. Ok, allora, che cazzo ti ridi? Non bisogna ridere su questo pezzo. Forza Juve. Forza Juve, esatto, paccato. Allora, arrivato a questo punto, non mi ricordo più un cazzo, ovviamente. Adesso più o meno ci siamo. Ah, sì. Ecco, volevo praticamente dirvi che da quando io non ho più a che fare con questa roba dell'amore, che è assolutamente uno scassamento di coglioni, ho iniziato ad apprezzare le cose, diciamo, le piccole cose. La masturbazione, che diciamo è assolutamente un hobby che porto avanti con assoluta frequenza, anche in pubblico a volte, ovviamente. Quindi mi rivolgo a tutti gli onanisti della sala, e spero che ce ne siano tanti. Ragazzi, quando incontrate una donna che vi ama, e mi ama veramente, trova qualcosa di buono in voi, non cascateci, segatevi sempre, perché ragazzi, l'amore è una truffa. Grazie. Seguiamoci tutti. Che bello, mi piace il tuo mantra, seguiamoci. Bene, stiamo per affossare... Alessio! Dai, Alessio Sartori, gente che abbandona, un'altra se ne va, bene, stiamo perdendo pubblico. Com'è? Allora, c'è uno e mi fa proprio... Proprio ciao, me ne sto dannando, non mi vedi più. Allora, ragazzi, ci sono, sei sicuro che ci sono? Sì, ci sono, ci ho parlato prima. Sonia! Dov'è? È là, ti rispondo. Ah, è figa. Elissa! No, non le invitiamo a salire, adesso vogliamo solo fare un minimo di pubblicità. Sì, c'è un tributo. Un tributo, visto che stiamo... occhio, perché tributo in un certo tipo di linguaggio vuol... Vabbè, lascia stare. Che cazzo stai dicendo? Visto che stiamo per affossare la serata, adesso facciamo un attimo pubblicità al momento culturale. Perché qui ci sono due ragazze. Due ragazze che hanno pubblicato un libro. Che hanno pubblicato un libro, di cui ci sono le nostre postfazioni che rovinano il libro. Il libro, che era bello, tutto un lavoro fatto bene sull'amicizia. Era bellissimo, e poi arriva la postfazione e dici, però potevate anche evitare. Però ce l'hanno chiesto loro, perché Max Angioni gliel'hanno chiesto ma non gli ha risposto. Esatto, quindi... noi siamo l'alternativa Max Angioni. E te dici, figa, ma passare da Max Angioni a loro, cioè potevi mettere delle vie di mezzo. Sì, esatto, davvero, perché cazzo, hai fatto 0-100, dove noi siamo 100. 100 e Max Anzoni è, Anzoni è 0. Va bene. Comunque vi invitiamo tutti il 23 novembre, fatemi dei cenni se è vero. È il 23? No, il, no. È il 13, il bastardo! Il 20 novembre, due hai date... Avevo detto il 20. Detta sbagliata io, detta sbagliata tu. Il 20 novembre qua, a un orario che non ricordo, per dove ci saremo libro... io e te... Ci saremo. A rovinare la loro bella presentazione. Il libro si chiama I nostri amici. Cosa devo dire? Brian, un applauso. Nelle migliori edicole. Ma non vanno in edicole. Per dire, tanto dopo alla quello Feltrinelli. Che... Sì, esatto, solo Feltrinelli. Adesso c'è un momento... Lascia star. Momento di quelli... Lascia star, lascia star. Già successo l'anno scorso. Lascia star che mi sto irritando. È un ragazzo che è già venuto l'anno lascia scorso. Lascia star. E io devo andare avanti, non è che posso fermarmi. Mi sto irritando. Non lo presento. Guarda qui. Che sto diventando violento. Io lo chiamo e poi vedi tu? Non so di chi stai parlando. L'abbiamo detto due minuti fa, ho detto chiamiamo lui, fai sì sì così. Esatto, Max Angioni che signore, è bloccato signori, nel traffico. La guest star. Sai chi devo chiamare? No. Dai, te l'ho detto due minuti fa, mi hai detto sì così dopo chiami anche gli altri. Ah, Campagnolo, sì. Non hai capito un cazzo. Stefano Campagnolo! Aspetta, prima di farlo salire. Ragazzi, questo... È matto vero. Al di là che è matto vero. Quello lì, non è che lo vedete dappertutto. Questo qui è il Joy. Questo viene solo in sti posti qua, eh. Ci sono tre regioni d'Italia che ce lo invidiano. Lui è uno bravo... Che ancora non si è accorto di esserlo e quindi va nei posti che fanno schifo. Ma quando avrà consapevolezza qua non verrà più. Esatto. Quindi lo richiamiamo, Stefano Campagnolo. Bene, possiamo iniziare. Ciao, ti chiami? Verresti a letto con me dopo? No. E, se posso insistere, ho anche il condizionatore. Ho portato il telecomando, se non ci credi. No? Questa è una scusa che uso più d'estate, però. Sempre meglio di quelli che, come scusa, dicono «Scusa, ma tuo padre è un ladro? Perché deve aver rubato due stelle per mettertele al posto degli occhi». Secondo me, quelli che usano questa scusa si meriterebbero questo. «Scusa, ma tuo padre è un ladro?» «Sì». «Non l'ho messo dentro quando avevo 8 anni». E non l'ho più rivisto. Ah no, cazzo, scusa, era solo per sapere se aveva rubato. Ma che cazzo vuoi? Cosa sei? Uno sbirro? No, le stelle per mettertele al posto degli occhi. Ma che schifo. Vabbè. Dei problemi di memoria. Bene, sono molto contento di essere qui questa sera, anche perché non mi capita spesso di vedere così tanta gente, perché io non ho amici. Anzi, io questa sera sono venuto qui per chiedervi se qualcuno di voi vuol diventare mio amico. Perché ridete? Guardate che è brutto quando uno fa una battuta e nessuno ride, ma è molto più brutto quando uno non fa una battuta e ridono tutti. Come... Ho problemi nelle relazioni, non so, per esempio, chiedimi, ciao, ci racconti le tue ultime due relazioni? Sì, aspetta che faccio finta di niente perché sennò sembra che non ti interessi davvero. Ciao, dimmi. Ah no, volevo chiedere se ci racconti le tue ultime relazioni, due, sì, due sono. Ah, grazie della domanda, grazie dell'interesse. Certo, volentieri, vuoi conoscere le mie ultime due relazioni? Come ti chiami? Betta. Ok. Vuoi essere mia amica? Era una proposta? Ok. Vuoi conoscere le mie ultime due relazioni? Ok, sì, grazie della domanda. Questa è una. L'altra è stata la settimana scorsa, quando ho trovato un biglietto sul parabrezza della macchina, ero tutto contento, ho detto anche un messaggio per me. E l'ho letto e c'era scritto: se parcheggi ancora nella mia aiuola, la prossima volta scendo con la mazza. Io l'ho rifatto, dicendo, una proposta di appuntamento, però non è sceso nessuno. Ci sono rimasto male, saremmo potuti diventare amici, invece niente. Ho problemi nelle relazioni, eppure non sono una persona complicata, cioè non sono una persona difficile, non sono uno stronzo. Cioè sono anche poche cose nella vita che mi danno fastidio, come per esempio quelli che si girano. Quelli che si girano mi stanno sul cazzo proprio... So, strisci la ruota della macchina contro un marciapiede e loro si girano subito a guardare come se fosse una cosa che li riguarda, quando loro non c'entrano un cazzo di niente, no? Vero? Per esempio, per fortuna che le vostre seggiole sono girate di qui, perché se fossero girate di là e mi guardaste così stareste tutti sui coglioni. Poche cose mi danno fastidio nella vita. Gli anziani, no signori, gli anziani, voi siete giovani, gli anziani siete qui, no, voi nel senso di prima persona plurale, non vi sto dando del voi, vabbè, ho problemi nelle relazioni, si vede, questo. E, gli anziani, quelli con la suoneria alta del telefono, che suona per mezz'ora perché non la sentono. Oppure gli anziani con la suoneria bassa del telefono, la sentono, ma ci mettono mezz'ora a riconoscere che è la loro. Gli anziani con un telefono, insomma, ecco. Oppure i bambini anche, faccio vedere. I bambini che corrono a caso, sbattono la testa tra di loro, e poi dopo tu ti devi occupare di loro, perché si muovono senza nessuna logica. I bambini che dicono il mio, la mia, quando di loro in realtà non c'è un cazzo di niente. Ma non ce l'ho coi bambini, cioè, mi piacciono i bambini. Cioè, che dipende, che è una cosa che dipende da come la dici, perché basta cambiare un po' il tono, no? Basta dire a me piacciono i bambini, che già suona diverso. Comunque ammetto che anch'io ho i miei difetti, nel senso ho problemi nelle relazioni, ma perché anch'io ho i miei difetti, insomma, come per esempio sono molto egocentrico, certi giorni mi prendo un egocentrismo che le porte dei supermercati quando si aprono automaticamente, un gusto. E quando arrivi da destra, che ti danno tutti la precedenza, un gusto. E quando attraversi sulle strisce pedonali, che si fermano tutti per guardarti attraversare, cammino pianissimo. Quella volta che sono entrato in un negozio ma non dovevo comprare niente, dovevo solo andare urgentemente... Ti ho visto le tette. Quella volta che sono entrato in un negozio ma non dovevo comprare niente, dovevo solo andare urgentemente in bagno a cagare, e quando sono uscito la cassiera che mi fa... Sono dovuto passare dall'uscita, no? E la cassiera che mi fa: grazie mille, e arrivederci. Essere ringraziati solo per aver cagato è il massimo dell'ego. Io ho risposto, figurati, non c'è di che, alla prossima. Sono anche competitivo, cioè dire la verità, adesso a 38 anni mi è passata, quando ero più giovane ero molto competitivo. Chi di voi è competitivo? Alzi la mano. L'ha alzata prima lui, avete perso. Quando ero più giovane ero molto più competitivo, quando facevo judo, calcio, teatro, ci tenevo ad essere più bravo del gruppo. Adesso a 38 anni mi è passata, insomma, e mi sono iscritto a ginnastica posturale e sono il più bravo del gruppo. Lo dice sempre mia nonna. Ciao. Stefano Campagnolo! Guardate come cresce il livello, eh? Male, male, male, male, male. Poi abbiamo ancora due o tre pezzi da 90. Stefano Campagnolo! Adesso abbiamo ragazzo che si è già esibito qua, un allora imitatore. Lui è la nostra nemesi. Diciamo. È la nostra nemesi, sì, è vero. È la nostra nemesi perché questa è la serata brutte persone, noi cerchiamo di invitare solo brutte persone e le belle persone che invitiamo cerchiamo di renderle brutte persone. Lui è una bella persona che è rimasto bella persona. È incredibile. Alberto Vitale, buon padre di famiglia, viene qua una sera, puttaniere. Esatto. Sto ragazzo viene qua una sera, seconda sera, bravissimo ragazzo. Esatto. Continua a essere un bravissimo ragazzo. Cosa dobbiamo fare, signori? Aiutateci voi, per favore. Perché questo è un imitatore, ma sono delle imitazioni concettuali, quindi non pensate al solito imitatore da programma di terza serata televisivo con le robe pacchianate, no. Ma si va oltre. Qui siamo, ci si rompe la quarta parete, è più cinema che imitazioni. Facciamo così? Lo chiamiamo sul palco, noi saremo un po' i suoi assistenti perché serve giusto un po' di movimento intorno, perché poi alle volte diventano dialoghi. Noi serviamo. Lo chiamiamo, ci inseriamo a piacimento. Antonio José Dante. Dante. Pensa che nome. Vai, Tecchiello che io parlo. Io sono di fianco a te, tu devi dire quello che vuoi. Okay, allora, sono stato qua il 27 giugno, chi c'era si ricorderà di me, suppongo. No. Ok, allora, mi rimancio tutto quello che ho detto, scusate. No, allora, farò come l'altra volta, farò sei battute introduttive, sei barzellette che non faranno ridere per un cazzo. Insomma, la prima volta mi è andata bene, vediamo questa. Poi vi racconterò una cosa divertente che mi è successo venerdì sera. Infine farò un'imitazione di Enzo Salvi e Massimo Boldi in un film. Ok, comincio. Mi piace che hai spiegato tutto, così uno dice a me la prima roba non interessa, esco, magari vengo a vedere la seconda. No, hai fatto il televideo. No, giusto, per inserire un po' di contesto. No, se no, dico, ma io era un apprezzamento sincero. Che cazzo, dicono, sto qua cazzo fa. Hai ragione. Vuoi che ti accompagni col piano? No, non c'è bisogno. Sai che lui ha fatto 12 anni di non conservatorio. Se vuoi, sì. Comincio. Non posso suonare. Allora, niente. Shh, vai. Comincio con le 6 fra 2. Questa è la prima. Allora, perché Wonder Woman è spacciata? Perché è un'eroina. No. Vai. Cos'è? Cos'è? Siamo alle poste, su. Prima è andata. Perché 6 non 5, che è un numero anche più... Va, c'ha che non avevamo preso minoranze, vai. Vai giù duro, vai. Prima non lo avevamo detto, ma era sottinteso. Seconda. Prima sono passato davanti a un negozio, c'era scritto tende da sole, e mi sono detto, vado a fare compagnia a quelle tende, poverine, sono da sole. Quindi, mi sono compatito. Questa devo dire, non male, non faceva male. Meno cagare della prima, vero? No, tu sbagli, questo è un buon livello, io l'avrei tenuta per sesta, però... La scaletta tua la fai tu, quindi non lo so. No, giustamente, ok. Vai la terza, allora, poi, a metà è bomba questa. Okay, poi ho incontrato uno e gli ho chiesto, scusi per l'ospedale? E mi dice, l'ospedale in fondo a sinistra. però se vuoi vitto alloggio alla prossima curva vai dritto, vedi che ti danno vitto alloggio, però non so se vale la pena, tu vai. Perché fai un incidente e vai, esatto, in ospedale. Esatto. No, ve l'avete capita voi. La prossima curva dritto ti schianta. Chi è che l'aveva capita? Però non avete riso, allora una... Grazie. Sì, la ri. Ma lui è pelato, cosa vuoi che rida? È bello impossibile. Vai con la quarta. Una mela al giorno toglie il medico di torno, una cipolla toglie tutti di torno, vedi che alito. Forse la terza era più forte di questa, però no, adesso c'è il mio cavallo di battaglia, no, della Pepsi. Lo so che è la sesta, perché le prime cinque sono così. No, è la quinta, è il mio cavallo di battaglia. È il mio cavallo di battaglia della Pepsi. Vai. Nessuno sa la ricetta segreta della Pepsi. Tranne Pep. Pep, sì. Noi le teniamo per ultime queste cose. Poi l'ultimo, una cazzata gigante. Invece le altre. È ancora più grossa. Sto cazzato. Allora, ma Giovanotti, quando invecchierà, si chiamerà Vecchioni o Anzianotti? Chi lo sa? Può darsi, magari si cambierà il nome. Magari dia, ho 80 anni, che cazzo mi chiamo Giovanotti a fare? No, Anzianotti. Secondo me quando ho 80 anni, se non lo fai, lo devi ricordare tu. Tu da lui mandi un messaggio su Instagram. Io 30 anni fa ho pensato che tu... E vedi come va. Posso dirti, Fanny, che gli hai rovinato la battuta? Scusa, hai ragione. No, al contrario. Colpa mia, errore mio. No, ti ringrazio. Non ringraziarmi, perché stiamo facendo quello che possiamo. È una bella vita qua. Giusto. Però noi abbiamo il momento migliore adesso, perché tu hai detto prima, faccio 6 cose tanto per buttarle via. Sì, adesso faccio racconto una cosa divertente che mi è successo venerdì sera. Qui mi sposto. Ero con 2 miei amici in macchina e all'improvviso al conducente, all'altro gli viene un attacco di panico, inizia a urlare ho paura, no, ferma la macchina, il conducente gli fa: oh, ti devi calmare, sennò ti tiro 2 pappine, hai capito? Cioè adesso se uno è inquieto lo si calma con 2 pappine, certo, funziona benissimo. Poi vabbè, si rimette in moto, accelera e io dico: no, vai piano, lui si gira e fa: la mia macchina, decido io quando andare piano e quando no, e accelera di più. Sto qua, gli viene ancora l'attacco di panico, apre la portiera, tenta di vomitare, vede che è solo un falso allarme, torna, vanno a prendersi in un bar una cosa che avevano dimenticato perché erano un po' distratti. Poi nel viaggio di ritorno... va tutto tranquillo, io ringrazio Dio di non essere morto in un incidente, si sente una puzza e quello di fianco fa: ho fatto una scorreggina, il conducente gli fa: no, scorreggione, a fete di morto. Io ero dietro così: aiuto, e ho tirato giù tutte le finestre, ci siamo fermati, abbiamo fatto cambiare l'aria e siamo ripartiti. Poi ho detto: va bene, fin qua tutto bene, siamo quasi arrivati ad un altro bar. E quello gli viene l'attacco di panico per la terza volta e fa: ho paura, tu vai troppo veloce, ho paura, tira il freno a mano e il conducente fa: oh, tu non devi tirare il freno a mano nella mia macchina, hai capito? Ti spiglio a schiaffi, porca puttana, togli la mano dal freno a mano, parcheggio davanti al bar, io mi catapulto fuori dalla macchina e dico: grazie, mi ho salvato, grazie mille, e poi li guardo: mai più macchina con voi, mai più. Sono ancora qui per poter testimoniare questo venerdì sera. Che devo dire, se ci penso adesso, dalla partenza non pensavo arrivassi a scorreggine. No, è successo veramente. Ma io che non ho capito, sembrava una camera gas. No, ma ci credo, ci credo. Davvero, mamma mia. Che gente frequenti, questa è la vera domanda. Sì, e basta. E adesso c'è l'imitazione di Boldi e Salvi. Salvi e Boldi. Che... Spiega la scena, però. Sì, Salvi e Ercipolla va da Massimo Boldi e fa: a Duca, me fai un caffè? No, lo so che non sei un duca, però duca vuol dire duca pelli, che c'hai una voglia del prosciutto cotto, ti hanno trapiantato una chiappa in testa, eh? Chiudo gli occhi, minchia, uguale. Adesso, cazzo, anche senti, ti aspetta mo te spiego perché mi chiamano Ercipolla, non perché mi puzza il fiato, ma perché se te piglio, te faccio piagne! Ho voluto fare questo tributo al grande Enzo Salvi e Massimo Boldi, che sono dei miei idoli d'infanzia. Tutto qua. E si vede perché sei così, signori. Grazie, grazie. Posso dirti che io ho visto tutti in vacanza di Natale e forse è il motivo perché io sono così. Io quasi tutti. E lui non ha visto niente, quindi chissà qual è il motivo perché lui è così. Chi lo sa? Non è il microfono. C'è il microfono. Vabbè, scusa. Signori. Scusa, Vale. Qui siamo al dadaismo. Qui è Antonio José Dante. Si costruì. Aspetta, devo andare di là, se no ci intrecciamo. Cosa stiamo facendo? Davvero parlare a un'asta senza microfono è il punto più basso di una carriera. Allora adesso te lo ricordi che c'è il non previsto? C'è il non previsto, quello che c'ha la faccia da più matto di tutti ma matto cattivo. Sì, sì, lui è matto. Quindi, io sai che non so neanche come si chiama. Questo per farvi capire allora, la selezione io, che viene fatta. Io dovrei sapere come si chiama, cioè nel senso l'ho conosciuto, cioè, ma anche ospitato una sera, no, quindi dovrei sapere come si chiama. Siete compagni di merende praticamente. Mi puoi fare un suggerimento? Non lo sa neanche lui, guarda. Bene, iniziamo Christian benissimo. Christian Dior! Ti prego, risolleva questa serata, perché è tutto malissimo, è tutto nelle tue mani, se viene una merda è colpa tua. Non lo farò. E verrà tutta una grandissima merda, anche perché sono ubriaco da ieri sera, quindi se a un certo punto continuo ad andare avanti, fermatemi, lanciatemi qualcosa, o cuscini, oggetti, soldi. Va bene. Allora, sicuramente vi starete chiedendo... Ti do fastidio? Sei sicura? Devo parlare più piano? Non lo farò! Sicuramente vi starete chiedendo da dove cazzo è venuto fuori questo coglione! Se è cinese, se è giapponese, se è mongolo! Sei un DJ americano di origine nipponica, Steve Aoki, sei il figlio illegittimo di John Lennon e Yoko Ono, sei Yoko Ono, e invece no, sono italiano anche se sembro cinese, sono un po' al contrario dei vostri abiti firmati, o delle vostre squadre del cuore, ecco, allora... È strana questa condizione, di solito glisso, non mi piace rispondere. C'è qualcuno tra di voi che sembra straniero o che è straniero? Ti chiedono spesso da dove vieni? No? Vabbè, se è bianco, dai, cazzo, ci credo, white privilege di sto cazzo. Cioè, allora a me spesso mi chiedono da dove vengo, io a volte, a te no, cioè a te te lo chiederanno da dove vieni. Appunto, non è che ogni tanto non ti rompi un po' il cazzo raccontare tutta la storia della tua vita? Ecco, e io di solito prendo la gente per il culo, cioè a volte mi chiedono da dove vengono e io ogni tanto, c'è stato un periodo che dicevo che venivo dall'Uzbekistan e nessuno sa dove cazzo sia l'Uzbekistan, poi ho iniziato a dire che avevo un nonno di Hong Kong e nessuno sa dov'è Hong Kong perché tutti mi dicevano, ah quindi sei giapponese? Qua c'è qualcuno che pensa che Hong Kong sia in Giappone? State mentendo. Ma la cosa che preferivo era dire che ero islandese e che ero terzo cugino di Bjork. Guarda, ci assomiglio. Ma la verità è molto più complicata di così perché io sono un mutante. No, non sto scherzando. E in pratica... voi quando avete fatto la prima cazzata della vostra vita? A quanti anni? Io a meno 9 mesi. Ero solo un brodo di DNA e già facevo scelte di merda. In pratica, il mio DNA non è quello di mia madre e di mio padre o di mia madre e dell'idraulico cinese, ma è qualcosa di completamente... cioè, è qualcosa di nuovo. Nel senso che c'è un cromosoma che a un certo punto si è staccato un pezzo e l'ha attaccato al contrario. Per spiegarvi in maniera un pochino basica, poi non credo che, viste le facce, ci siano dei dottori di genetica qua. Allora, praticamente il DNA, immaginatevelo come una sinfonia, tipo Per Elisa, dove i geni sono le note, i cromosomi sono gli strumenti che suonano questa sinfonia. Se tutto va bene, salta fuori Per Elisa. Invece nel mio caso un cromosoma ha suonato lo spartito al contrario ed è venuto fuori l'inno della Repubblica Popolare Cinese. Succede, si chiamano mutazioni, sono rari, altre mutazioni sono tipo i capelli rossi, gli albini, Paolo Brosio. Ecco, la mia è una mutazione molto rara, è come tipo vincere la lotteria e prendersi un fulmine nel culo, nello stesso momento, è una mutazione che mi ha dato il superpotere della supervisibilità, qualsiasi cosa io faccia, mi vedono. La prima birra che ho bevuto da adolescente, non da bambino, subito mi hanno sgamato. La prima sigaretta, subito beccato. La prima volta che ho provato a rubare un ovino Kinder. Cioè, alla faccia del fatto che i cinesi sono tutti uguali. A me, fin da bambino, è stata negata la via del crimine. È una delle carriere più promettenti in Italia. Anche perché io non sono nato a Milano, ma sono nato a Faenza. Conoscete Faenza? È quel posto che puzza di merda. Quando siete sulla A14 per andare a Rimini, sentite una gran puzza di merda, quella è Faenza. È vero, cercate su Google, Faenza puzza, 62.000 risultati utili. Siamo la capitale mondiale della puzza di merda, delle ceramiche, che infatti in francese si chiamano faience, perché ai francesi piace un sacco la puzza di merda, ma soprattutto del vino, perché a Faenza facciamo il vino italiano più venduto nel mondo, il Tavernello, facciamo piastrelle per il cesso e vino di merda, infatti puzziamo come una fogna. E praticamente io nasco a Faenza tra gli anni 70 e gli anni 80. Immaginatevi questa signora romagnola che invece di sfornare fuori un bel tortellino tira fuori un involtino primavera. First reaction shock. Voglio dire, in quel periodo in Emilia Romagna, ma anche in Italia, cioè erano più comuni le stragi dei cinesi. Come cazzo è possibile? Cos'è successo? Ha mangiato troppo riso? Hanno fatto il viaggio di nozze in Cina? Per mettere al riparo l'onore di mia madre è stato subito messo davanti a tutti che io avevo una malformazione genetica, che non è proprio un bel biglietto da visita, tipo in certi ambienti tipo la scuola. Cioè per me è stato un problema anche l'asilo, anche perché poi io la prendevo molto sportivamente. Di solito urlavo, piangevo e mi pisciavo addosso. Praticamente ero un talk show con Iva Zanicchi. Poi, crescendo a scuola, è andata anche peggio, perché poi, oltre a questo, si è scoperto che ero pure un secchione, soprattutto in matematica, che tra l'altro è uno stereotipo dei cinesi, o degli asiatici in generale, e quindi ero anche saccente, e poi ero anche un po' grassoccio, ma non grassoccio come quei bambini belli, grassi, no? Ero grassoccio brutto, con le tettine, quindi ero un misto, saccente, quindi un misto tra Sheldon Cooper, un femminiello napoletano e il leader della Corea del Nord. Ho passato più tempo con la testa infilata nel cesso che sui libri. Ecco, però alla fine è andato tutto bene, sono cresciuto, non ho mai, devo dire che nonostante tutto non ho mai sofferto di depressione, perché la depressione è una malattia per i ricchi e tu, Manuele, non te la puoi permettere. 20 anni dopo la mia psicologa si è permessa la barca a vela. Non ho mai sofferto di razzismo, perché insomma, dai, in Romagna non c'è molto razzismo per i cinesi, per i negri e per gli zingari un botto, ma per i cinesi no. Ero un po' razzista io verso i cinesi, devo dire, nel senso che pensavo che i cinesi fossero tutti identificati come brutti, sporchi, e è successo che invece alle superiori è arrivato un altro cinese a Faenza, cioè questo vero, ed era un figo della Madonna. Cioè io ero pure il cinese brutto, cioè tutta la sua cazzo di famiglia erano tutti dei fighi della Madonna. Per farvi capire quanto cazzo erano fighi sta cazzo di famiglia di cinesi, la sorella del mio compagno di scuola conduceva Top of the Pops. Nessuno se la ricorda. Ecco, cazzo, io, cioè, c'ero io e poi c'erano loro, quindi vedi che pure i cinesi possono essere fighi. Quindi dati tutti questi diciamo condizioni necessarie ma non sufficienti, io avrei potuto soffrire di alcolismo, ma non si soffre di alcolismo in Romagna perché l'alcolismo non è un problema, è uno sport. E poi soprattutto alla fine mi è passata, anche perché crescendo ho capito che va bene, gli altri mi prendevano in giro, ma ci sta, perché prendersi in giro, prendere in giro le persone è divertente, e quindi adesso lo faccio io sul palco, mi faccio pagare e ho trovato il mio equilibrio. Ci avete creduto? Col cazzo, sono visto che per me la scuola è stata una merda, sono diventato un insegnante di matematica e adesso rendo io la scuola una merda. Grazie a tutti, io sono Manuele Laghi e vi aspetto su Facebook per un bel pollicione, su Instagram per un bel cuoricione o nel bagno per un bel soffocone. Grazie. Manuele Laghi! Che chiusa, che livello, tenuto per ultimo anche lui. E beh, ma noi la scaletta la facciamo con criteri. E un altro abbandona, lei è arrivata 2 minuti fa, no, conosce forse il matto? No? Posso dirti che in percentuale stasera hanno abbandonato in pochi. Stasera è stata una serata, devo dire, brutterella. Signori che venite dall'anno scorso, vi voglio bene. Anch'io. Grazie. Stasera non vi chiederemo soldi di cappello perché ma non ce la venite... sentiamo anche no, noi. No, allora noi dovremmo pagare loro, secondo me. Stasera sì. Io avrei una domanda. Voi venite per compassione nei nostri confronti? Grazie. Senti che non ha neanche pensato, sì. Ricordiamo, sai quel figlio che ha avuto quei problemi con la tossicodipendenza, San Patrignano, ci hanno provato. Posso chiamarvi nonno e nonna? No. Occhio che stai per crollare. Guarda che è tutto lì, si va un centimetro dalla vita. Cioè la vita va assaporata un centimetro, un quarto di miglio alla volta. Signora, guardi, è un momento molto... Guarda che bello. Sì, adesso mi fanno segno dalla regia di stringere. A me quel bastardo lì mi sta scendo. No, adesso abbiamo l'ultimo. L'abbiamo tenuto. No, ma guarda quel tuo amico lì che è un pezzo di merda. Ma ha ragione, dai. Ma vai a chiudere, ma lascia. No, a me... Sappiate che lì c'è uno che è un suo collega che c'ha un cappellino da figlio di puttana. Che io vi dico, gli schiaffi se li chiama. Quindi se uscite vedete uno con un cappellino da testa di cazzo... Tra l'altro, sotto il cappello com'è? Calvo. Però non si rasa. Hai detto pelato tutta la sera? Calvo. Una volta che ti ammazzo una roba... Ma perché è calvo con... Vai a cagare. È calvo con disprezzo. Sì, è vero, non è un orgoglioso pelato. Lui c'ha 4 capelli. E dice che lui è rasato. Lui non capisce di essere un pelato. Lui pensa di essere un capelluto. Io ti chiedo scusa, ti stimo, ti conosco da tanti anni. Mi vergogno un po' per il mio amico, però sai come va. Chiamiamo il prossimo ospite, che è l'ultimo, e poi chiudiamo questa serata. È l'ultimo? È l'ultimo, l'abbiamo tenuto per ultimo, perché sapevamo che portavamo la serata allora, a questo livello. Allora, il prossimo è il peggiore di tutti. Peggiore di tutti anche per quello che vota, esatto. Perché l'abbiamo messo per ultimo, ma comunque il governo ha vinto quella coalizione lì, ed è inutile invitare solo fighetti di centrosinistra. Io vi chiedo per favore di non giudicarlo. Salviniano, prima ora, nonostante comunque sia giovane, perché ha un 25 anni a spanne, Salviniano è la prima ora. Uno che l'immigrazione una cosa, odia. Una cosa gli fa girare i coglioni. L'immigrazione, esatto. Quella selvaggia. E lui adesso viene qua, non parlerà di immigrazione, non lo so, però vogliamo presentarvelo così. È un vero piacere avere con noi per la prima e speriamo non l'ultima sera, spero di pronunciare bene il nome, John Modupe. Buonasera amici bianchi. Come va? Tutto bene? Tutto a posto? Wow, siete proprio tutti bianchi. Fantastico, oggi sarà una serata molto molto interessante. Allora, prima di cominciare, quanti millennial ci sono qua? Quanti? Millennial. Ok, fantastico, voglio capire quanti schiaffi riceverò oggi. Ok, giusto per rompere il ghiaccio, posso fare una domanda? Sta parlando un nero, per favore. Giusto per rompere il ghiaccio, posso farvi una domanda rapida? Posso chiamarvi amici bianchi? Sì, amici bianchi, Johnny, amici bianchi. Pissaci in bocca, no? Tanto che ci sei, amici bianchi, lui è nero, no? Può dire quel cacchio che li paga, amici bianchi, pissaci in bocca. E noi bianchi in bocca chi pisciamo? Non lo so, amici bianchi. È il famoso privilegio nero, no? Il famoso black privilege. Bene, utilizziamo il suo privilegio nero. Oggi, amici bianchi, ho intenzione di raccontarvi una storia. Una storia che mi ha insegnato a conoscere me stesso, una storia che mi ha insegnato a conoscere voi, amici bianchi. Parlo della prima volta su un mezzo pubblico. Entro in autobus. Cosa vedo davanti ai miei occhi? Un bambino nero che si rotola per terra. Amici bianchi, dovete sapere una cosa. I bambini neri rompono il cazzo. Guardate, miei amici bianchi, come sono contenti. Sì! Finalmente un negro che dice le cose come stanno. Finalmente posso morire in pace. È bellissimo quel senso di intimità, quel senso di fratellanza che si instaura automaticamente, quasi come uno switch. Appena vedete un nero che conferma tutti gli stereotipi che avete sempre avuto su di noi. Già, grazie. Io lo sapevo, porca puttana, che siete dei negri. Lo so, io, John, grazie. Sei il negro del mio cuore, ok, ho capito. Tu sei un vero negro, ok, ho capito. Tu sei il mio negro, amici bianchi, non ditelo mai più. Ho capito che sono un vero negro, ho capito che sono il vostro negro preferito. Però io in realtà stavo soltanto cercando di sfogarmi, ok? Avevo bisogno di una spalla su cui appoggiarmi, perché ogni volta che entro in autobus c'è sto bambino nero di merda che mi fissa, mi guarda negli occhi, mi punta pure con il dito, mi fa: guarda, sei proprio il negro come me, non ci posso credere, è proprio il negro come me, mi guarda, è proprio il negro, non c'è persino, ma mi guarda. Un pochino come i cani, no? Avete presente i cani quando si incontrano in giro? Un cane, anch'io! Un cane, sembra un cane come me! Amici bianchi, non comparate i neri ai cani. Non posso neanche dire, posso dire un cazzo, che palle, lo so. Non posso neanche dire che i neghi assomigliano ai cani, lo so. È molto difficile essere bianchi nel 2022. Ma tenete duro, ragazzi, tenete duro, ok? Dove eravamo arrivati? Ah, giusto, i bambini neri rompono il cazzo, ma ovviamente il problema non era il bambino nero, ok? Il problema eravate voi, amici bianchi. Sì, sempre colpa nostra, sì, ok? Perché siete dei falsi, amici bianchi, siete dei fake. Perché mentre quel bambino nero di merda si rotolava per terra, voi lo guardavate con questi occhi da cerbiatto, tipico da attivisti. Ma che belli i bambini di colore, dai, che bello, dai, che belli. Ma i bambini di colore sono proprio tutti belli, tutti belli un cazzo. Avete mai visto Arnold? Il bambino più inquietante nella storia dei bambini più inquietanti. Nessuno sa chi è Arnold. Wow. Ok. Oh mio Dio. Mi sono perso. Un applauso, dai. Un altro applauso per Onero. Due secondi dopo, vi girate verso di me. Mi guardate come per dire: oh! Oh, Ciccetto, c'è il tuo fratellino qua che sta rompendo le palle. C'è il tuo cuginetto qua che sta... Oh! C'è il tuo cuginetto qua, andresti a dargli due legnate in testa da parte di tutti noi, per favore? Oh! Ringo Pippo! Vi ricordate la pubblicità della Ringo? Ringo Pippo! Oh, sì! Oh, oh, oh! Bringing us together! Ringo Pippo! Oh, Ringo! Oh, sì, lo so che vi ricordate. Perché ogni nero millennial ha avuto un amico bianco fissato con l'idea di ricreare la pubblicità della Ringo. Lo so. Ehi, Johnny, facciamo Ringo Pippo, ma non rompermi le palle! Te e i tuoi fetish per le mani nere che immagini come biscotti al cioccolato. Mollami, ok? Oh mio Dio, sapete una cosa, amici bianchi? Io quel bambino non lo conosco, piantatela di fissarmi, ok? Qua ci vuole l'applauso, per, giusto per fare da transizione. Ah, mamma mia, sapete, crescere neri italiani porta a sviluppare diverse sindromi. Una in particolare, la sindrome del Vucumpra del cazzo. Finalmente l'ho detto, odio i Vucumpra con tutto il mio cuore. Ogni volta che andavamo in gita alle medie c'era questo Vucumpra che mi approcciava, non voleva vendermi niente, arrivava e faceva: fratello, come stai? Non sono tuo fratello, posso tornare dai miei amici bianchi? Aspetta! Vita non è così, fai calma, hai capito? Ma voglio tornare dai miei amici bianchi? Aspetta! Fai calma, hai mangiato? Ho già mangiato, aspetta! Ah, comunque, per i miei amici attivisti che amano dare un nome a tutti i comportamenti pseudo-razziali, questo si chiama unsolicited negro bonding. Tradotto, legame non richiesto con un negro a caso. Fratello, aspetta, fratello, fai calma. Io ce l'ho, mangio biscotti, vuoi mangiare biscotti? Non voglio mangiare biscotti, voglio tornare dai miei amici bianchi, aspetta. Mio biscotti, è biscotti che ce l'ha la fossa. Non sto parlando di quel biscotto, non pensate male. Mio biscotti, è biscotti della potenza. Ma non voglio i biscotti della potenza. Aspetta. Mio biscotti, è biscotti della Ringo. A me piacciono i Ringo. Ah sì? Sì, biscotti della Ringolopipolo. In questo momento arriva il mio amico Giulio, ha sentito Ringo Pippo, è emozionato, ha la luce negli occhi, arriva in slow motion. Sì, facciamo Ringo Pippo con i Vucumpra, ma non rompermi le palle, non rompermi le palle. Niente Ringo Pippo con te, Giulio. E niente Ringo Pippolo con te, Vucumpra di merda. Ok? Niente Ringo Pippo, perché in questo momento mi sto vergognando da far schifo. E non mi sto vergognando perché Vucumpra era nero, eh? Anzi sì, decisamente perché era nero. Sapete, devo spiegare, fino a questo momento i miei amici bianchi si erano già fatti un'idea di chi fosse sto famoso personaggio ideologico razzializzato, popolarmente chiamato negro di merda. E sto Vucumpra era il prototipo perfetto, che tra l'altro sapeva magicamente pure il mio nome. John, mommy come sta? Mia mamma la lasci stare, ok? Mia mamma la lasciamo stare, non so come fai a conoscere il mio nome, come fai a conoscere mia mamma, mio papà, i miei fratelli. Lasciamo stare la mia famiglia. In questo momento arrivano i miei amici bianchi che guardano questa scena, mi guardano come se mi avessero sgamato, mi guardano, si raggruppano, no? i miei compagni di classe, mi guardano come per dire: peccato, ma allora sei solo un negro come lui? E tuo papà? E tuo papà? No! No! No! Io quel negro non lo conosco! Io non sono un negro come lui! Questo è un incubo, ragazzi! Amici bianchi, per l'amore del cielo, guardatemi! Guardatemi, amici bianchi! Parlo bene l'italiano, più o meno. Questo cappello della Polo è originale. L'ho pagato un sacco di soldi, ok? L'ho comprato pure da un bianco. Ho un sacco di amici bianchi. Come razzisti che dicono di avere un sacco di amici neri, anch'io ho un sacco di amici bianchi, ok? Così tanti che da piccolo pensavo di essere pure uno di loro, però vabbè, quella è una storia per un altro giorno. Il punto, amici bianchi, è che io ai vostri occhi ho sempre cercato di essere qualcos'altro. A vostri occhi ho sempre cercato di essere un negro superiore. Un negro di qualità. Un negro chic. Perché no, un negro borghese. Un negro bianco. Sì, sì, qua c'era l'applauso. Qua c'è l'applauso. Un negro bianco tipo Antonio Di Chele Di Stefano. Devo chiudere? Okay. Ok, ultima. Questa l'ho scritta in questi giorni. Quindi, insomma, verrà come verrà. Sapete, amici bianchi, io sono una persona abbastanza timida. Sono molto timido. Mi vergogno. Mi vergogno molto. Non sono bravo con le donne. E ce l'ho piccolo. Ce l'ho piccolo. Ce l'ho piccolo. Sì! Finalmente l'ho detto! Che liberazione! Oh mio Dio, mi sono tolto un peso. Mi sono tolto un macigno, finalmente l'ho detto. Mi viene da piangere. Sembro quasi Salvini, che confessa il suo desiderio, che confessa di aver sempre voluto essere nero. Ve lo immaginate? Salvini nero con il pisello piccolo. Oh mio Dio! Che poi alla fine è un po' la storia del suo carattere politico ipersessualizzato, no? Tante aspettative ma poche capacità. Però io a differenza sua mi vergogno tanto. Però devo, a dire la verità, online sono molto forte. Online sono divertente, sono carismatico, sono quasi profondo. Online, qua non so se farlo questa cosa, ragazzi. Quanti milanesi ci sono qua? Milanesi. Wow, oh mio Dio. Online sono carismatico. Online sono profondo. Online, sì, sono quasi profondo. Online ho trovato finalmente il personaggio che ho sempre voluto essere. Un pochino come i milanesi. Oh, sì. No, mi fermo qua, guarda. Perché mi guardi così? Cosa ti ho fatto? Che faccia? Aiuto, aiuto. Un pochino come i miei amici milanesi. Avete mai chiesto a un milanese se viene da Milano? Sì. Ma tu, Antonio, da dove vieni? Sei di Milano? E lui... Sono italiano. No, ho capito che sei italiano. No, ho capito, ma sei di Milano. John, sono italiano. Se mi stai chiedendo se sono un sacco di merda, non è... No, non volevo insinuare, non mi permetterei mai. John, non mi sembra il caso di chiedermi delle mie origini. Penso che non faccia particolarmente piacere neanche a te quando ti chiedono se sei africano. Beh, Antonio, non penso sia proprio la stessa cosa. John, guarda, io sono una brava persona, ok? Sono una brava persona. Non me la tiro. Non sono un sacco di merda. E sono povero. Sono povero come voi. Come noi, in che senso? Come voi, you know. You know, I love the people, the culture of... ma perché parli in inglese? I love the culture of the people of color, you know. No, va bene, puoi parlare in italiano. Yes, sai. Io, tra l'altro, poi... Io amo la vostra gente e ho anche una cugina che è un attivista transfemminista di colore. Ma come di colore? Ah, perché hai qualche problema? No, no, no, no, perché vedo che sei bianco, no, pensavo, no, per caso John hai qualche problema con una povera ragazza nera che ha un cugino bianco, per caso vedi soltanto un colore? No, perché sei bianco, hai qualche problema per caso? Per caso hai un problema anche con i miei capezzoli neri? Per caso hai un problema anche con i miei capezzoli neri? Sì, sono un uomo bianco con le tette bianche e i capezzoli neri. Probabilmente i miei capezzoli neri ti piacciono, visto che vedi soltanto un colore. No. Sono a posto così. Sapete, i miei amici milanesi sono probabilmente la specie più discriminata di sempre. Di sempre. E ora che ci penso, non deve essere facile, sto cercando di mettermi nei panni di Antonio Di Chele, non deve essere facile essere Antonio Di Chele, nero e milanese, oh mio Dio, un sacco di merda in tutti i sensi. Ok ragazzi, qua è la fine del mio set, mamma mia, grazie mille. Oggi è stata dura, un gruppo di bianchi mi ha sfruttato come un negro dal mattino alla sera, a lavorare dal mattino alla sera mi hanno chiamato pure qua, a lavorare come un negro, oh mio Dio, mi staranno chiedendo ma chi è sto John, io sono veramente timido, grazie Andrea. Grazie John, un grande applauso, John Modupe. Tanto che bello se passa uno che sente il suo pezzo ma non vede e sente, io quel negro non lo conosco, ce l'ho piccolo. Cazzo, che serata. Vabbè. John! Modupe! È mezzanotte. Sai che alle 11:15 ho detto come siamo stati bravi, finiamo presto, tac, è già mezzanotte. Vedi? Quando vedi. Ci si diverte. Infatti è andata via a metà della giornata. Esatto. Siamo partiti in 50, abbiamo finito in 20, 25. Poteva andare peggio. Io ricordi che ci devono pagare. No, io non me la sento questa sera. Di chiedere a loro un'offerta, tu te la senti? Perché non hai lasciato la busta, pezzo di merda. Me la sono dimenticata perché sapevo già come sarebbe andata. Ma sei un coglione. Guarda che se ne sta andando, guarda. Guarda che non lasciano un soldo. Ma va bene così, è un invito per la prossima volta. Ne metteranno io di più. E io pago il vino. Vabbè, sei un artista, puoi permettertelo. Signore e signori, grazie a tutti. Ci vediamo fra 15 giorni, 10 novembre. Se l'Exalge non ci caccia, grazie ancora al locale, grazie a voi. Aspetta, c'è lui che sta lanciando. Aspetta, aspetta. Pardon? No, ragazzi, sembra Tangentopoli. Va. Mi sembra il finale. Cazzo, è un euro. Boh. Un applauso. Tanto la conosco. La conosco, quindi domani glielo devo dare indietro l'euro. Buonanotte a tutti e viva la Madonna.